Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La mia amorosa mi ha appena detto che Barisoni ha una voce super sexy e sembra che parli da una sexy caverna e lei si eccita pensando alle sue bat notizie di economia. Sì, però devo dire una verità, devo dirvi la verità, caro Davide. Giusto riconoscimento, no, al grande Barisoni, giustissimo, no, riconoscimento. Devo dire la verità. Che stai dicendo? No, ma non lo dico perché è il vice direttore di questa ottima, no, eccellente. No, però ma lascia perdere, ma devi sempre sottolineare queste, no, cose qui. No, ma dico, è un'ottima valutazione, ha una voce indubbiamente molto molto sexy. Lascia perdere, non è quello il punto. Questo mi pare sia, no, questo il punto. No, il punto è che quando tu non sei a conoscenza di questa cosa, quando entrare nello studio dopo, sì, Barisoni significa respirare anche il suo profumo, l'odore, il profumo. C'è un profumo. L'ho detto mille volte quando viene qui a Roma, certo. C'è un profumo pazzesco, c'è una cosa, ma che un cazzo profumo. Di profumo usa? Roba sofisticata, vecchio mio. Tu roba dici? Però se potessi parlare, amico mio, roba sofisticatissima. Che ne sai te, scusa, del profumo? Lascia stare, io intanto so tutto. Ma la cosa è, cioè, tu entri dentro. Sì, comunque non è un tema di apertura delle 18:36. Ma chi se ne frega? Di una trasmissione che dovrebbe occuparsi nella rete del Sole 24 Ore, comunque, no, di temi attinenti alla politica, all'economia. Ma lo dici tu questo qua? No, va bene, allora avanti. Allora, i rapporti anali, forza. Oh, quello dopo. Ah, dopo, come dire. Quello dopo. Mamma mia, non c'è più proprio niente. Faccio parte anch'io del fan club femminile di Barisoni. Barisoni, sei troppo sexy. Vabbè, ragazzi, però adesso basta questa storia. Ma che c'è? Cioè, ma chi se ne frega? Cioè, dai, ma chi se ne frega? Allora, c'è una specie di ribellione, sì, sempre sul web. Sul cosiddetto, come dici tu, Bibba? Io dico anche il web. La rete, quando uno poi dice Grillo, il web si ribella. Cazzo vuol, sì, dire web, sì, si ribella? Ma non vuol dire le niente. Le persone si ribellano, sì, i singoli il si ribellano. Rivolta web. Sul web. Ma quale rivolta? Che se ne frega? Non frega niente a me. No, ma mi fa impazzire i titoli. Non me ne frega niente. Sì, un attimo, Feltri. Ti leggo un titolo, D'Urso. Sì. Ci sono uomini che per troppo amore fanno cose che non vorrebbero fare. Si riferisce al caso della ragazza di Messina che si chiama Ilenia, che sarebbe stata bruciata con la benzina, sì, dal suo fidanzato. Sfreggiata dal fidanzato. Si è presentata dalla D'Urso con le telecamere dentro l'ospedale. Cioè, la cosa incredibile, vabbè, telecamere dentro l'ospedale. Qualche domandina magari ai signori dell'ospedale di Messina. Vabbè, se questi hanno autorizzato questi, no, qui, ma sono bravissimi. Io mica sto attaccando la D'Urso. Io non attacco la D'Urso per niente. Tutti quanti attaccano la D'Urso per questa cosa. Ci sono uomini che per troppo amore, ha detto la D'Urso, non fanno, amore, cose. Però. È sbagliata la frase, secondo me. Non è attaccare la D'Urso. Lasciami dire la frase bene. Ci sono uomini che per troppo amore fanno cose che non vorrebbero fare. Non è amore, rivolta quindi. Web. Ma sfregiare la fidanzata non è amore, quello è malattia. Allora, tu vuoi andare subito su quella frase? Ma sentiamo, sì, certo, questa frase. Sentiamo. Le è sfuggito il termine amore, ma non è, sentiamo, amore. Sfregiare, sentiamo, la fidanzata, sentiamo, non è amore. Sentiamo. Sentiamo, perché è. Senti, Ilenia, ascoltami. Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore, troppa gelosia, fanno delle cose che non vorrebbero fare? Perché tu mi dici, dimmi Barbara, perché un'ora prima era lì che mi abbracciava e dopo un'ora dopo è venuto a buttarmi la benzina addosso e incendiarmi? Io ti dico, io non lo so chi è stato, io voglio credere a te. Però tu lo sai che ci sono uomini che potrebbero farla una cosa del genere per troppo amore e per troppo possesso? Questo lo, sì, sai, ce Lenia? Ce ne sono, sopra 100 ce ne sono 99, lo so, ma lui non è in grado di fare una cosa del genere, non è in grado, Barbara, credimi. Ilenia? Rivedi i miei occhi. Sì. Gli occhi dicono tutti. ma al limite dicono tutto, ma insomma questa è un'altra cosa. Allora, la frase è di per sé quasi inattaccabile. Se non fosse per quel non vorrebbero, ci sono uomini che per troppo amore, ma non ha detto solo troppo amore, ha detto anche possesso, gelosia. Se sì, uno taglia certo le cose e mette solo amore, che cazzo vuol dire? Adesso io non devo difendere a tutti i costi, si difende da sola benissimo la signora sì, Russo. Certo. Non me ne frega niente. Voleva dire uomini. Ci sono uomini che per troppa gelosia, possesso. Esatto, quella la detta, ma solo la parola amore è fuori luogo. Ma non ha detto solo è quella. Ma ha detto pure d'accordo il resto con te. Ma non me ne frega niente. Poi, ma sono d'accordo con te. La parola amore è totalmente fuori luogo, però. Questo scusi, si lei può dire. Filtri prova amore? Lei ma non me ne frega niente. Io ma provo amore per quando faccio i miei titoli contro gli immigrati. Del resto me ne frega niente. Guadagno €1.000.000 all'anno. Ma andate a fanculo. Ma non mi invitate per parlare di queste cose. Me ne frega niente. Allora, poi l'unica cosa è ci sono uomini che per troppo amore bisogna aggiungere possesso e gelosia, perché quello ha detto, fanno cose esatto che non vorrebbero fare. In realtà non è che non le vogliono fare. Cioè, in quel momento le vogliono fare, gli vogliono buttare la benzina addosso, non è che non la vogliono fare. Se lo fanno esatto è perché vogliono buttare la benzina addosso. Esatto, esatto. Bravo. Rivolta web. Ma quale rivolta web? Quattro cazzoni che su internet attaccano la Durso, sì, dai, sì, su. Basta. Rivolta web. Ma vaffanculo, va. Rivolta, mi fanno impazzire, rivolta web. Poi il web come impersonato in qualcosa. Sì, ma che cos'è? No, una, ma guarda, una persona. Finiamo qua, perché non mi interessa dai neanche. No, ma non è neanche più senso discutere di niente. Teniamola così, fissato, teniamola. È 20 giorni da prima delle vacanze che sei fissata con questa cosa qua. Sì, su chiudere la trasmissione prima, perché ma no, sarebbe un successo. Tu chiudere proprio la trasmissione. Allora, ti spiego, sì, chiuderla, certo, ma perché? Però. Pagato, chiudere la trasmissione pagato. Ma nessuno però ti paga per io non farla. Ma vediamo, io la chiuderei, perché a quel punto ti fidi di me? Se la chiudiamo improvvisamente la gente, il web comincia a dire oddio, chiusa la Zanzara, chissà perché. No, non c'è nessun motivo, in verità, solo per creare aspettativa. Si crea aspettativa, c'è un mese di vacanza. Ma se lo dici prima non va bene, se lo dici prima non va bene, però. Ma intanto facciamolo, vediamo che succede. C'è un mese di vacanza di silenzio, la rivolta continua. Ma non è vero. E poi semmai la riapriamo, vediamo, però chiudiamola intanto. Ma sai che bello se la chiudiamo qui? Allora veramente, ragazzi, il punto fondamentale è anche un altro. Poi vi faccio sentire bene questa ragazza che è chiaramente che succede? Che succede? Che succede? Il cane, cane della Celentano? È il cane della Celentano così? Ma fa culo. Il cane della Celentano. Tu dimmi una cosa. No, rispetto a quello che ho detto ieri, in questo posto qui, a Radio 24, non possono entrare i minorenni. Beh, cioè, non giusto, possono questo, entrare giusto, i minorenni. Questo è giusto. Cioè, a parte tutte che le aziende, io dai, spesso ho fatto entrare mia figlia e me ne sono sbattuto i coglioni. Figlia, te lo dico tu, me ne sono sbattuto. Lo dico qua, me ne sono sbattuto i coglioni. Io sì, no, io che ho chiesto l'autorizzazione. Frego, no, no, no, no. Io ho chiesto l'autorizzazione a Barisoni, mi è stata data ed è venuto tutto regolare, tutto con le carte scritte. Lascia perdere. Cioè, non possono entrare i minorenni, possono entrare i cani che cagano? Cioè, ti pare una cosa normale? Sì, secondo me. Non possono entrare i figli minorenni che non cagano, che non cagano. No, però in scusa, mezzo se la trasmissione agli riguarda studi gli animali, è giusto che tu porti gli animali. Certo, sì, qualora si occupassero di elefanti, trovo difficile. No, ma lascia perdere, poi altra studio, cosa, però altra però giusto, portare i cani è giusto. Come mai se gli animali, per me possono entrare benissimo gli animali, per carità. Se gli animali sono uguali agli uomini, come sostiene la Celentano e tutti gli animalisti pazzi, uguali a lei. Perché no, ma cagano? Non è bravissima, perché me cagano? Ma sì, ma che c'entra quello bravissimo? No, a me bravissimo piace molto, io sono perché molto amico cagano della sul Celentano pavimento, allora? Ma cosa vuol dire? Avuto se sono uguali agli uomini, perché cagano sul pavimento? Tu di questi temi non puoi parlare, perché da anni inviti la gente a urinare nei lavandini. Quindi vero, tu non puoi, non sei un maître à penser dell'educazione, no, del Galateo. Ma quindi no, non ti lamentare. Ma cosa sei c'entra? Il cagnolino adorato della mia amica Celentano. Ma lo ha fatto a sfregio nello studio della quale trasmetti tu. E ha fatto benissimo. Vabbè, e a tutta la mia solidarietà. L'hai già detto questo ieri. No, ma è vero, è giusto ripeterlo. L'hai già detto ieri. È giusto ripeterlo. Allora, c'è una polemica, secondo me, assurda. Io, come tutti, naturalmente, sono un grande fan di Fiorello. Ma c'è una polemica innescata dal signor Fiorello che trovo veramente ridicola. E tra l'altro non capisco perché abbia innescato questa polemica. Forse perché c'ha un figlio o una figlia che sta crescendo, non lo so, e dunque si preoccupa per la televisione, eccetera. Vabbè, insomma, io ho una figlia di 11 anni e non mi preoccupo di quello che può vedere. Francamente non mi preoccupo di quello che può vedere in televisione il pomeriggio, anche perché il pomeriggio fa altre cose. Ma lasciamo perdere questo. Fiorello ha innescato una polemica addirittura rivolgendosi a tutti i direttori delle varie reti, al signor Campodall'Orto, al signor Cairo, a Pier Silvio Berlusconi, eccetera, eccetera, per dire non mandate la cronaca nera nei rotocalchi. Scusa, amico mio, però perché la cronaca nera la può fare solamente, che ne so, Vespa alle 23:30 o non so chi alle 11 di sera? Per quale motivo al mondo? cioè basta schizzi di sangue o racconti tru... Non so, sentiamo Fiorello, perché mi sembra veramente una cosa ridicola. Cioè, limitare la libertà dei palinsesti in televisione, perché la cronaca nera non si può fare nei contenitori del pomeriggio? Poi dipende da come la fai. Ci sono, no, c'è la legge, si legge sui giornali, cioè, ma sui giornali tu trovi i dettagli dei... Ma chi se ne frega? Giornali, ma perché dicono, non si può fare in televisione la cronaca nera? Ma chi lo dice, sì, Fiorello? No, ma perché? No, vabbè, magari lui pone una questione. Ma non me ne frega niente a me. Di come viene trattata, ma la cronaca nera. Ma no, dice proprio, no? Bisogna... Senti. Non lo so, sentiamo. Senti. Appunto, vediamo. Mi rivolgo ad Antonio Campodall'Orto, a Pier Silvio Berlusconi, diciamo alle due reti generaliste, anche alla 7, a Urbano Cairo, e chi per lui? A tutta la televisione generalista, va bene? Va bene. È possibile intervenire, cari vertici di queste aziende, ed eliminare una volta per tutte i casi, che in modo che vengano trattati solo nelle sedi competenti, che sono la magistratura, la polizia, i carabinieri e i telegiornali? Cioè, praticamente, secondo Fiorello, bisognerebbe cancellare tutti questi programmi e affidarli solamente ai telegiornali, alla magistratura e alla polizia. Cioè, nel fascismo. Cioè, succedeva, era una cosa del genere, cioè una cosa assurda. Sì, cioè, la cronaca nera fa parte del racconto quotidiano, poi bisogna vedere come uno la fa. Come viene fatta, sì, ma certo, sempre, su questo è sempre questo ragione, il punto, cioè. Dai, su. Lei dice ci sono ore con dettagli sulle TV generaliste. Ecco, forse questo è vero. Ma che vuol questo dire? Ma non vuol dire niente. Ma uno spegne la televisione se non vuole. I minori, tutti i problemi assurdi già risolti. Cioè, è una fissazione perché probabilmente c'è i figli che crescono. Ma non so, non credo che sia solo quello. Ma. Ma sì, dai, su, ci sono bambini anziani, infatti, dice, lo dice pure. Bambini anziani, parlate. Sì, ma d'altro. No, infatti, per ma mia se figlia, uno vuole parlare di cronaca nera, perché Fiorello, deve limitare la libertà di chi vuole parlare di cronaca nera? Ha espresso il suo parere, dice, la sua preoccupazione, non è che vuole limitare. Gli appelli, ma perché? Cioè... Parlate di libri, parlate di storia, parlate di qualsiasi cosa, ma non potete fare ore e ore e ore a parlare con notizie di particolari, di cronaca nera il pomeriggio, quando ci sono bambini, ci sono mia mamma che è una donna anziana, viene ammorbata da tutta questa, è terrorizzata mia madre, perché mia madre il pomeriggio si guarda la televisione. Ah, ecco, abbiamo capito che il problema è anche quello della madre di Fiorello. Va bene, è terrorizzata, per carità. Cioè, siamo tutti solidali col terrore della madre di Fiorello. Però non è che uno può trasformare il terrore della madre in un problema nazionale. Cioè, mi sembra veramente assurda questa cosa qua. Cioè, una cosa veramente ridicola. Cioè, non... Fiorello, amico mio, hai detto una cazzata, secondo me. Cioè, magari può trovare consenso in qualche maître à penser, in qualche personaggio, no? Pensoso sulla televisione, in qualche filosofo, in qualche purista, non so in chi. In qualcuno che rimpiange la televisione degli anni non so quando. Ma è una cazzata, tecnicamente una cazzata. Anche perché a me non piace quando uno attacca certi programmi e non fa nomi e cognomi. Allora dovrebbe dire: lì ho visto questo, lì ho visto quest'altro, questo ha detto una cazzata. No, questa... evidentemente si riferisce no, in ma c'è sempre la solita. TV. No, no, c'è sempre la solita cosa. La solita cosa. Non ha fatto nessun nome. Non ha fatto nessun nome. Beh, ci dato la, tutte, ma tutti no, i ma lascia, non ha, fa, non ha detto i contenitori. Dica, il contenitore tale fa spazzatura. L'altro contenitore è una merda. Questi altri fanno vedere delle cose truci. Nomi e cognomi, perché altrimenti diventa una baraonda in cui tutti sono messi dentro. E no, non si fa così. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! La Zanzara. Iniziamo. Però contro... Parla. Dico Barbara che non è stato Alessio Mantineo. Non la, sarei una pazza a dire sì o no. Sarei pazza. Non credi? Senti Lenia, tu hai visto? Io non chiedo, niente. Che succede? Barbara Rosso, io non chiudo niente. Cosa sta succedendo? No. Scusami Barbara, scusami. Dimmi Lenia. Io non chiudo niente. Scusami la mia volgarità, eh? Scusami. Io non chiudo niente, qua stiamo parlando di una trasmettitrice con le palle, scusami che dico queste parole. Quindi ho intervistato tutti, è la migliore, no? Vabbè ragazzi, è un racconto straordinario in realtà questo qua di questa ragazza Ilenia, che accusa, che vuole salvare il fidanzato nonostante le prove che sembrano schiaccianti nei confronti del fidanzato. In realtà ti dirò, ma chi è che dice chiudi il collegamento? No, perché a un certo punto c'è la madre che va a rompere i coglioni perché non vuole che la figlia parli, capito? C'è un conflitto con la madre. Era la madre, ah, ho era capito, la madre. Capito. Allora, il problema fondamentale è questo. Storia e la tragica, dico, e la dico, no, la dico tutta. A me pare una storia tragica, sì, francamente, vabbè, però. Ma questo è una banalità. La dico, una storia ma è chiaro tremenda. Che è tragica, la dico tutta, la dico tutta. È no, servizio dirla, questo, sì, sì, sì, questa roba qui è servizio pubblico. Ma beh, ti dico, ecco, perché questo immagino, no, ecco, ma ti dico perché sempre... No, perché guarda, chi veramente non ha nessun interesse a difendere la Durso, no, ma nessun interesse. Ma io credo che sia servizio pubblico e ti spiego anche perché. Ti spiego perché. Perché vedere una ragazza che pur di difendere il fidanzato che l'ha bruciata con la benzina, lo avrebbe bruciato, lei nega. Pubblico. No, per dire, è il racconto di una donna che nega l'evidenza pur di salvare, sì, il fidanzato. Ma qui siamo d'accordo, ma non c'entra perché il servizio pubblico. È una tipologia umana che esiste, facendo ma, vedere ma, questa ma che ti... assolutamente ma una cosa pubblico, di grande mi pare... di... assolutamente mi pare, sì. Mi pare solamente mi... abbiamo avuto per chi vuole andare a vederlo e per no, chi l'ha visto ieri sera. Il servizio pubblico lo rifiuto. Aspetta, completamente. Vabbè, ma lascia perdere. Lei adesso sa fare la televisione, ma definire quella roba lì servizio pubblico, ci ha fatto no, vedere, dai, che esistono delle donne, delle ragazze in questo caso, che pur di difendere il loro fidanzato contro la madre che non lo vuole. Ma perché il servizio pubblico è televisione, punto. Sono non è disposto servizio perché sì, perché ci insegna, ci ma ci, che ci no, servizio che pubblico esistono non è anche quello, queste persone ma, qui. Ma vabbè, che allora vuol dire? Non è ma così. Che allora, che cazzo è? Ma è una tragedia. Che cazzo è parlare è una, di politica? È una messa, dai. In ma no, mico dico che il servizio pubblico è solo politica, ma sicuramente Vincenzo quella roba Catania. Lì è una roba talmente drammatica che è una messa in scena. Che, mica, Vincenzo non è che la messa da in scena, è tutto vero. È successa una cosa vera. Ho detto, non è che la messa in scena la D'Urso, non ho detto assolutamente questo. Però ce l'ha fatto vedere Vincenzo da Catania. Sì, ce l'ha fatto vedere, no? Certo. Vai Vincenzo, dimmi. Luciani, no, dimmi. Dico, sinceramente mi sento stasera che dici una serie di cazzate. Ma che cosa, scusa, su che cosa? Spiegami. Ma sulla D'Urso, ma sinceramente quella è stata un'oca scomposta. Un'oca scomposta, vabbè, ma un questa precedente è... allucinante. E qual è il precedente? Spiegami. No, scusa, Cruciani, parla di amore, ma che cazzo no, c'entra? Ha detto l'amore? Anche possesso, gelosia, ma dai ragazzi. Ma che c'entra su? L'amore, Cruciani? L'amore, ma certo che non è amore, ma scusa, cosa vuol dire? Ecco, appunto, dire lei doveva dire che quello è un demonio. A parte che, animale. A parte, attenzione, non Vincenzo, amore. Se quello ha buttato la benzina, ma figa, lo dici a me. Tu ma hai se... creato, tu dai legittimità a un alibi, come se io lui non sto da... l'alibi dell'amore. Io, ma che sei, io ho dato l'alibi a questo qua, ma che sei scemo, sei. Ma sei pazzo. Totalmente, sei tu un pazzo. Parli con migliaia di persone e non ti rendi conto di quello che dici. Vincenzo, anche io non ho detto nulla, a parte che la frase della D'Urso, io non ho fatto, ma non certo. Ha fatto parlato di amore, sei impazzito. Devi dire che è una stronzata la frase della D'Urso, è una frase da salotto di un'oca. No, no, no, amico non mio, capito, la frase è diversa. La frase è diversa. Ha detto no, possesso, anche cari, possesso dai, e gelosia. Vabbè, ragazzi, ma se volete comunque, prendere. L'amore è sbagliato. Adesso non è non Cusa, linciare Cusani, nessuno. Ammetti, il termine amore non c'entra nulla. Ma non vuol dire. Ma ragazzi, ma rimane intatta Cusani. La stima nei confronti della D'Urso. Però amore non c'entra nulla. Davide, non fare il leccaculo. Ma è così. È esattamente così. Amore non c'entra nulla. Vincenzo, io non ho una parola sbagliata. È proprio sbagliato. Il vabbè. Concetto. Ragazzi, vabbè, avete ragione voi. Federico dalla provincia di Roma, dai. Buonasera dai. A tutti. E come la tecnica di prendere una frase, spezzarla. Sono d'accordo senza con te. Punto, possiamo però dire che gli è sfuggita la parola amore? Federico dalla provincia si di Roma. Si può dire che associare tutti. Quello guardate, all'amore non è sbagliato? Vai, dimmi. L'ho vista ieri su internet. La, ma poi, ma scusa, la ma vi rendete conto che qualcuno fa l'analisi della singola vabbè, parola normale, utilizzata? È normale, però. Ma che cazzo ma è? Ma appartiene al ma dibattito no, dei media, questa roba se, qua è normale. Se una conduttrice normale può difendere un gesto del genere, ma che dite? Ma dite delle ma follie, non lo ha dite. Difeso, è che ormai è entrato nell'immaginario collettivo talmente Roma, questa roba qui che è un gesto. Dai. Devo dire la mia. Allora, sulla questione della D'Urso, lei che io ho visto, lei ha detto. Ah, ma è un modo di amare a suo modo e combina queste cose. Ma che quindi non l'abbiamo sentito adesso, questo non l'ha ma detto. È una stronzata quella che stai questo, dicendo. Questo no, non io l'ho visto in diretta. Non hai sentito diretta. Nulla, non ti ricordi, male. No, ti ricordi è un male. Modo di amare a suo modo. E compie questi atti, ha detto così testuale. Ha parlato di possesso, di gelosia. Non ha giustificato nulla, è una puttanata. Giustificato non ha giustificato niente. È una polemica ridicola, dai. No, no, io non dico che ha giustificato, stavo solo semplicemente abbiamo invece dicendo... visto cosa si riesce a dire pur di difendere il fidanzato, ecco, perché è in contrasto, è... perché è in contrasto con la questa, madre, punto, dai, basta. L'intervista di questa ragazza è la sconfitta di tutte le attività contro la violenza sulle donne. È una puttana, no, ma per, dici per il ruolo di questa ragza, dici. Sì, certo. Ma almeno l'abbiamo visto, ma certo, va bene. Ma non questo, lo so, a parte che lei nega che sia stato lui, adesso magari sarà stato lui perché ci sono prove inattaccabili, ma se questa lo nega, adesso vediamo. La madre interveniva per bloccare l'intervista perché era appena uscito il fatto che hanno beccato quello lì che andava a prendere alla pompa della benzina, sì, faceva certo, il carico di certo, benzina certo. Per questo è intervenuta la madre, per non farla più parlare e bloccare l'intervista. Vabbè ragazzi, riprendiamo tra, ho capito bene, riprendiamo tra un attimo. Ti voglio segnalare, Parenzo, almeno viene, viene scritto in alcuni siti che la moglie del tuo amico Kabakebji, la moglie che è consigliere, consigliere certo. comunale del PD, moglie del tuo amico siriano Kabakebji, sì, pare che abbia un cugino, cugino detenuto a Guantanamo, che è stato detenuto a Guantanamo. E quindi? No, ma per dire, la per butti là così, quindi cosa vuol dire? La butta là così. Allora, leggo, il cugino leggo da qualche parte che un cugino no, di pare detenuto, che un pare. Cugino di Cruciani pare, un, sembra pare magari una che un cugino di Cruciani sia pedofilo. Stato coinvolto nel sia stato coinvolto in una bancarotta fraudolenta della Banca del Seme. Pare c'è cioè una banca del Seme, sì, un cugino di Cruciani. Come che vuol dire? Che è coinvolto per un cugino di Cruciani coinvolto in una bancarotta fra la banca ma del riprendiamo seme. Tra poco dai ragazzi su. La Celentano al suo cazzo di cane gli mettesse un pannolino, che lo porti in giro col pannolino per non cagare in giro. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 15 gennaio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Il segnale orario vi è offerto da... Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. La Zanzara. Ciao Cruciani, ciao fratello Parenzo. Comunque, merito di essere straniero buono, straniero cattivo, io non me l'auguro. Per carità, non ho mai avuto problema con nessuno di anni che qua. Ma un giorno, se mi incontro con un tipo come Mauro di Mantua, giù formaggio, o col tizio che ti minacciava Parenzo ieri, se mi incontro con questa gente lì, non so come andrebbe a finire, perché queste gente lì ti fanno perdere tutta cosa buona che avevi dentro. Queste sono gente che non valgono di essere rispettato di un merito cazzo di questa gente. Ottimo. Questa gente, ottime questa, persone. No, questa no, gente, quella parte migliore dell'Italia. Vedi come il migrante questa è sensibile. Questa gente non capisce. Se no, non prendere in giro come parla, perché parla molto meglio di qualunque altro italiano che chiama in questa bolgia, in questa latrina, in questo sterco. Questa è una colonscopia, l'ho detto altre volte, ma lo ripetiamo. Questa trasmissione è una colonscopia all'Italia, cioè è un microfono piazzato nella parte dove non batte il sole che tu indaghi e stimi per capire qual è la pancia dell'Italia, anzi il retto dell'Italia. Quella è l'Italia migliore. Tu lo sai chiudiamo che c'è gente... con questo. Questa chiudiamo? È la cioè... parte migliore no. dell'Italia. Non si capisce perché una televisione deve durare fino alle 20:50. Non si capisce la necessità di questa cosa. Parenzo, hai rotto il cazzo tutte le sere. Chiudiamola qui, finiamola qui. Vuoi sempre fare la trasmissione di 5 minuti? Sì, 5 minuti, bravo, esatto. Pagato. Cioè, beh, ovvio, mancherebbe altro. Allora ragazzi, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni rilasciate ieri qui alla Zanzara dal signor Matteo Salvini. Sì, no, in segretario. Sì, vergognoso, segretario. Anche, lo ebbi a dire in diretta anche ieri. Sì, l'hai detto, sì, lo ebbi a dire anche ieri. Segretario della Lega per l'indipendenza, fu per l'indipendenza per della indipendenza, Padania. Esatto. L'indipendenza della fu Padania. Il quale Matteo Salvini ha detto che la sua ricetta, se dovesse diventare presidente del Consiglio, la sua ricetta per respingere gli immigrati è quello di salvare le vite umane in mare, lui dice. Poi però prendere questi signori, praticamente posarli su una spiaggia del Nord Africa, immagino, o da qualche parte, con una pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e del gelato. Così ha detto. Cioè, praticamente scaricarli sulle spiagge con un po' di noccioline. Questa è la sintesi che è stata fatta. La sintesi. Pazzesco che un leader politico parli in questo modo di persone, vabbè, paragonandole alle scimmie praticamente. Razzismo, secondo come te? Si... Razzismo! Razzismo! Razzismo! Questo la... lo vogliamo dire, lo vogliamo chiamare razzismo? Assolutamente, gliel'ho detto ieri in faccia. È lo stereotipo classico che si usava negli anni 30 nella iconografia razzista del fascismo degli anni 30, in cui nella difesa della razza, già diretta da Telesio Interlandi e Giorgio Almirante, il migrante veniva rappresentato come una scimmia, e quindi alle scimmie si danno le noccioline, e quindi fa schifo. Sentiamo, detto Salvini. In sintesi, Salvini. Fa schifo quello che ha detto Salvini, ministro dell'interno. Domani chiama la Marina Militare, cessate chiunque sia in mezzo al mare, ma poi lo riportate indietro. Ma come fai se non hai gli accordi? Ma come fai se non hai gli accordi? Infatti Minniti è appena tornato. Sono gli accordi con tutti i paesi. Cioè li scarichi sulla spiaggia? Li scarichi sulla spiaggia, dici? Assolutamente sì. Li scarichi. Una bella pacca sulla spalla, ma... il pacchetto di noccioline e un gelato. Pacca sulla spalla, pacchetto di noccioline e gelato. E gelato. Ce l'aveva anche con il signor Bello Figo, signor Bello Figo, che dovrebbe andare a raccogliere cotone e banane. Anche qui, Parenzo, tu hai interpretato questa cosa di Salvini contro il cantante rapper Bello Figo, che ha che è il cantore degli immigrati, praticamente il cantore delle gesta degli immigrati in Italia. È praticamente sì, una specie di paladino. Io voglio wifi, voglio wifi, non pago affitto, non faccio operaio. È un furbone quello lì, quello è un furbone. È un furbone, è uno un furbone che è non fa bene alla causa dei migranti. È il cantore degli operai. Beh, il tuo amico Gad Lerner dice che praticamente è il modello, è il futuro. Il futuro non ho capito. Ma no, il futuro è che un immigrato faccia anche il cantante, questo contro ovviamente. Bello Figo. Faccia il sindaco, faccia l'amministratore delegato di Alitalia, faccia tante cose un migrante. Ma perché un migrante deve fare l'amministratore delegato? Perché Alitalia è stata amministrata male. Sono i futuri italiani. Cioè, Ma perché? Ma chi te l'ha saranno, detto? Alcuni di loro saranno operai, altri saranno notai, altri condurranno la zanzara. Abdallah Kabakebji condurrà la zanzara. Ma figurati. Sì. Quello ci spieghi intanto se uno dei suoi parenti vergognati, è stato carcerato. Mi ha appena scritto, mi ha appena scritto, ti risparmio perché adesso dedicheremo tutta questa parte di trasmissione. Sì, mi ha appena scritto, sto lavorando, altrimenti interverrei. Grave associare il PD ai fratelli musulmani. Questo è un comunicato ufficiale. Ma non me ne frega niente. È vero o no che il cugino della moglie era rintanato? Ma era a Guantanamo? Sì o no? È vero o no? Lo dica Kabakebji. Lo dica Kabakebji. Ha fatto fallire la banca del seme. È vero o no che tuo cugino di quarto grado, ma è diverso. Ha fatto fallire la banca del seme. Noi vogliamo sapere se un parente del consigliere comunale, peraltro, come sai, su internet intorno alla moglie di Kabakebji sono state trovate delle frasi a favore degli estremisti. Io sono serio. La responsabilità penale è personale. Basta! Ma io siamo voglio seri. Però vogliamo che cosa sapere vuol dire quando se un parente, del consigliere comunale del PD, quella che va col col velo al consiglio comunale e non può mettersi il velo di... Voglio capire se è vero o no, oppure una bufala. Tu porti i capelli sporchi, hai i capelli sporchi e le unghie zozze, e quella non può mettersi il velo in testa. No, ma lascia perdere, adesso sto dicendo quella col velo. Le tue unghie zozze sporche per giunta. Sto dicendo, è vero o no se la signora Sumaya, moglie di Kabakebji, cosa è parente cambia di uno che è stato a Guantanamo? Lo vogliamo sapere. Se non è un problema, lo dica. È vero o no? Basta, punto. Adesso mi chiama. Eccolo qua. Roba pazzesca, dai, su. Salvini su... Che cos'era? Salvini su... Sì, su Bello Figo. Vabbè, ma ragazzi, ma non è che ha detto. Ha detto, vada, non è in grado di fare il cantante, secondo lui. Vada a raccogliere il cotone, le banane. Ha detto anche i pomodori. Non è che ha detto solo... le banane, razzismo, razzismo. Beh, sì, il cotone, diciamo, anche tu hai fatto notare che il cotone ricorda le piantagioni. Faccio il conduttore alla radio, ti voglio segnalare, non è che sei anche una persona intelligente, quindi l'associazione grazie, è evidente, se no non staremo più a lavorare. Ma non è l'hai fatta, ma non è che voleva dire, Chissà come mai chissà come mai gli è venuto il cotone, le banane, chissà come mai ai leghisti, fatti una domanda, chissà come mai a Calderoli gli viene in mente di associare la Chienge alla, alle banane, a quell'altro il cotone agli immigrati e le noccioline ai neri. Come mai? Dai, dai, senti. Come dai, che dai cosa? Cosa sto dai, mi dai un nervoso, dai cosa? Dai, andiamo avanti, dai. Ma dai. Bello figo, lo manderei a raccogliere il cotone. Ma il cotone ricorda lo stereotipo razzista. Ma il cotone ricorda appunto, vedi? Stereotipo razzista salta sempre fuori, vedi? Salta sempre fuori. Sempre là si torna. E l'altro cosa ti metti? La tua maglietta è di cotone. Però il cotone di cotone, però. Fitto, non faccio l'operaio, bene. Abbassa la schiena e raccogli quello che la terra ti offre. Collegamento, ecco, non faccio operaio, vada nei campi di cotone, di pomodoro e magari impara a lavorare. Questo voleva dire, signor Salvini, credo. Ma no, ma credo, adesso, ma non faccio l'esegeta, con tutti lo faccio. Fa l'interprete. Ah, dai. Roberto dalla provincia di Massa, dai, forza. Ciao a tutti. Dimmi. Io ero d'accordo con Fiorello. Ma è chiaro, ma è molto facile essere d'accordo con Fiorello. Dice, beh sì, bisogna eliminare le cose truci dalla televisione, il sangue che schizza. E fatemi nomi, cognomi, i titoli dei programmi, cosa succede in quei programmi. Questo, non queste cose. Bisogna togliere i programmi di cronaca nera. La cronaca nera è il fondamento di una democrazia, il racconto dei delitti, il racconto di quello che avviene nella società, è uno dei cardini della democrazia, che non è che può essere riservato ai giornali o può essere riservato ai telegiornali o non so a che cosa o ai programmi dell'accesso. No. Ma i format pomeridiani per lo più non fanno informazioni. Ragazzi, ma perché uno si deve occupare dei palinsesti della televisione? Ognuno deciderà come. Ci sono le norme, se uno. Che è questa cosa? Una partita di calcio, chi ha vinto, chi ha perso. Ma è anche così, ma è normale che sia così. Uno è colpevolista o no? E secondo te Bossetti è colpevole o no? Secondo te in quella casa che è successo? Ma è normale? Sono domande che la gente si fa. Perché la televisione non deve rispondere a queste domande? Perché la mamma di Fiorello si mette paura? Ma dai, su, ma di che parliamo? Su. Pino da Caserta, su, ma io rispetto. Chi è che fa rumore? Parenzo, chi è che fa rumore? No, Davide, che cazzo stai facendo col telefonino, con l'iPad? Del cazzo, c'ha il cellulare e spegni tutto, no? Con il coso chiuso. Quindi mio non nonno, è... Pino da Caserta, dai, Pino, qui è tutto vero. Ci tutto sono, ci sono due vero. Tipi di caccole. Due tipi di caccole, adesso questo vuole parlare di ecco, caccole. Intellettuale. No, ma va bene, per carità. Ebbe a fare questa riflessione, dato che non mi lavo da tre giorni. Tu non ti lavi da tre giorni? Scaccolandoti bene. Dimmi. C'è la caccola molla, quella che rimane attaccata alle dita. Sì. Sì, però andiamo veloci, questa è la radio, le voglio ricordare, signor Pino da Caserta, che questa qua trattasi di radio. Cioè tu non discuti il merito, tu sei arrabbiato perché lui parla lento, cioè capisci a cosa siamo arrivati ormai? Cioè un signore alle 19.28 nella radio della Confindustria. I nani. Siamo diventati dei mostri, un pazzo. Pino, non ho capito. La caccola molla che rimane attaccata alle dita, 2-3 minuti la devi girare perché non la puoi lanciare. Questo è vero. Poi c'è la caccola dura, che quando la tiri dà una soddisfazione come se avessi tolto, che so, un trave, una cosa bellissima. Sì, quello è vero, questo è tutto vero. Questo è chiamato per questo. Aspetta, la terza tipologia di caccola qual è? Ecco, l'altro che ti fa domande. Tu hai detto che quante tipologie sono? Ah, due, solo due. No, perché solo due? Scusi, professore. Scusi, professore. Interessante. Vabbè, ma questo però è anche abbastanza scontato, cioè non ci stai dicendo una cosa nuova. Chiunque sa che ci sono due tipologie di caccole, quelle che diciamo che sfilano, cioè quelle che filano, quelle molle. Ma perché fai che fai? Come me? Bello, che soddisfazione. No, quella molla non è tanto soddisfacente in realtà, perché ti si appiccica, tu la devi andare a recuperare. Si appiccica, poi la lanci, si attacca. No, quella la lanci no, è sicuro, perché la devi tu dici per buttarla via, la lanci dici si attacca da buttarla via nella stanza. Invece quella dura, dici, quando esce proprio quella arricciata, no, arricciata, quella che è diventata, si è un po' incrostata. Lei ha una vita normale, signor Pino da Caserta, cioè ha lei ha una moglie, una fidanzata. I nani. Ma che c'entra adesso i nani? Però. Abbiamo creato dei mostri. Pino, non ho capito perché tu dove le tiri le caccole? Non ho capito bene. Nel naso, dove le prendi? No, ma dove le tiri poi? Le tiri addosso alla gente? No, nella mia stanza. Magari. Ma perché non ti lavi da tre giorni poi? Perché non ti lavi da tre giorni? Ho letto da tre giorni. Beh, non ti lavi. con tua madre. Sono un malato. Ah, sei malato da tre questo giorni. Si era capito. No. Ma non da tre giorni. Da tre giorni non ti, ma, non ti lavi. Per, è bello. Questo, se alzi adesso, facci un po' un forno olandese. Alza un po' la. Oh, la le, alza le coperte. Le braccia. No, le coperte. Le senti, no, che odore c'è sotto. Che odore c'è dietro, sotto il letto? No, coperte, il letto è pulito perché viene cambiato tutti i giorni. Ma dietro le orecchie, passare il dito dietro le orecchie, no? Sì, quanto adesso? E poi dice un piccolo profumo, però. Poi le ascelle, le ascelle belle, gli odori forti, odori maschi. Ciao, ciao, ciao. Giuseppe, pensa a quello che entra dentro nello studio dopo di te che non ti lavi mai. Quello si deve lamentare, non te, cazzo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Fulvia, aspetta, cosa pensi della Zanzara, il programma che ti ho fatto sentire stamattina col giornalista? Non mi pronuncerò. Dai, su. Dai, fa schifo al cazzo, questo qua è una faccia di merda, è un coglione, è un ignorante. Poi che ovviamente lo fa per boh, gli piace Pappardelli, questo qua. Caro Parenzo, tu lo sai che c'è gente che fa seppellire, che fa tumulare il proprio cane nella tomba di famiglia? Nella tomba di famiglia? Sì. Come cioè, fosse un parente stretto? Esatto, sì. Cioè sì, accanto c'è una tomba di famiglia, accanto non c'è solamente, sì, che ne so, Giovanni, sì, i francesi, sì, sì, c'è anche il cane. E ti posso dire che... Tu reputi strana questa cosa, mentre non reputi strano l'ascoltatore che chiama, no, assolutamente, e descrive, no, nel dettaglio, sì, le caccole che estrai, esatto, dal, ecco, io voglio anche ripetere, esattamente, voglio anche ripetere perché sono radical chic e quindi mi fa schifo questa roba, però ecco, tu ti scandalizzi perché uno vuol far mettere, anche io la trovo una stranezza assoluta, non lo farei mai ovviamente, però capisco che uno si vuol mettere il cane, però non muovi ciglio, non muovi un niente, un pelo, un dito, quando quello chiama tranquillamente davanti, di fronte a 2 milioni di ascoltatori, dice, descrive le sue caccole. Beh, amico mio, ma dove andiamo a finire? Dove andremo a finire secondo te? Dove? E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Ogni tanto la Corte di Cassazione pronuncia delle sentenze splendide, straordinarie. Recentemente vi leggo questo, ragazzi, è fortissimo. È legittimo il sequestro dei cani se abbaiano e disturbano il riposo di persone. Ma come sequestro? Ma è stupendo, è stupendo. È legittimo il sequestro preventivo dei cani tenuti da anni dalla proprietaria in un cortile in pessime condizioni igieniche e che abbaiano continuamente disturbando i vicini. I cani, per quanto concerne le misure cautelari inerenti al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, devono essere considerati cose pertinenti al reato, la cui disponibilità da parte dell'indagato può protrarre la loro consumazione. Bellissimo. Cioè, se un cane ti rompe i coglioni mentre riposi, tu denunzi e a un certo punto possono sequestrare il cane. Bellissimo. Ragazzi, questa è civiltà. Questa è civiltà. Questa è grande civiltà. Qualcuno mi ricorda, a proposito di caccole, che tu nel famoso servizio delle Iene in cui ti facevano lo scherzo, sì, ti scaccolavi ampiamente. No, ma lo dico c'entra? Così. Ma era in privato, però. Ah, per cioè, non sapevo di essere ripreso dalle telecamere. Per carità. Giovanni da Pesaro, vai, Giovanni. Che ascoltatori attenti. Sì, buongiorno, guarda. Dimmi, Giovanni, dimmi. Io dopo la cultura espressa da Salvini, le cacole e le ascelle, volevo fare un discorso un po' più soft, se possibile. Sì, dimmi Giovanni, sentiamo il professore che ha c'è da dire qua, Giovanni, dimmi. Io volevo esortare tutti i cittadini a essere meno razzisti verso quelle povere persone, bravo, immigrate, che sono diverse da noi, ma non per questo sono peggiori di noi. Dunque bisogna avere pazienza, ospitare queste persone, cercare di farle integrare, senza fomentare odio, eccetera. Sì, ma che vuol dire concretamente? Beh, è un bel appello per una persona sensata. Sei molto parenziano. A te le persone sensate non ti piacciono. Sei molto, molto parenziano. Voi siete molto... siete avanti. Voi fate una radio, io quando chiudo gli occhi penso di essere in Cina. In America fate una radio internazionale. No, non siete, mi pare, ma Giovanni, di che stai parlando? Stai parlando di un'altra trasmissione, cioè, praticamente. No, no, di voi. Io giro il mondo e non vedo l'ora di tornare all'aeroporto per mettermi in macchina e ascoltarvi. Questo è ottimo, questo è buono. E dunque? Siete forti e andate avanti così. Vabbè, ma che vuol dire adesso, al di là di questa incitazione? Che volevi dire sugli immigrati? Non ho capito. Vorrei bene. Dire gli immigrati che c'è. Persone, innanzitutto chiamo le persone, non immigrati, perché immigrati. Bravo, persone, bravo, bravissimo. Questa è una persona del civile, persone per me. In difficoltà, ma non dobbiamo andare noi a cercare. Senti, amico mio, un profitto, no? Il problema, sì, ma no, non ho capito un cazzo. Senti. Ma la cosa fondamentale è un'altra. Non possiamo prendere chiunque abbia bisogno in Africa, in Asia, eccetera, e portarlo qui in Italia. Non si tratta non si di questo, non si tratta di Alberto da Roma. Giovanni, arrivederci. Sì. Alberto da Roma, dai, Alberto. Pronto? Dimmi. Allora, io volevo dire solo due cose. Solo una due cose. Riguardo alla cronaca nera in televisione. Sì. Io credo che non si dovrebbe fare non per un motivo dovrebbe. Semplice. Ha deciso Alberto da Roma che la cronaca nera in televisione che non si dovrebbe insieme a Fiorello, hanno deciso che la cronaca nera nei rotocalchi, che non si capisce bene quali sono i rotocalchi, cioè non si capisce perché non si può fare mezz'ora di cronaca nera e mezz'ora per parlare dei ciccioni. Qual è la proibizione? Cioè qual è il disturbo che provoca negli anziani e nei bambini questa roba qua? Al limite uno spegne la televisione. No, non crea nessun disturbo. E allora qual è il problema? Si rischia di processare in televisione per testimonianze leggere degli innocenti e disperso. Ma quello è un altro discorso. Questo è il discorso che faccio io. Senti. La cronaca nera fatta in televisione crea falsi innocenti e falsi colpevoli. Il caso di vabbè, questa è una discussione vecchia, superata ormai dal fatto con queste che discussioni si fa. Antiche, vecchie, inutili. Cosa, dipende come viene fatto. Un'altra cosa, vuole dire un'altra cosa, Alberto. Facciamo sentiamo, dire. Per carità, continuiamo certo. A parlare, continuiamo tutti a parlare di immigrati, non immigrati. Esistono solo due problemi. Quali sono? Gli immigrati non è uno. È il numero, la quantità. Vabbè, poi eccolo qua. È arrivato il professore. Possiamo, poi? Non possiamo accettare tutti da tutto il mondo. Vabbè, questo e lo sappiamo, seconda, l'abbiamo già detto. Poi? E la seconda, la legalità. La legalità. Noi cerchiamo che cosa strana, che cosa originale. Cioè, devono rispettare la legge, Alberto. Sì, abbiamo capito. Nulla di originale. Nulla di originale. Ripassa un po'. Quanti fruttivendoli hanno i banchi di fuori e a un italiano gli fanno occupazione di suolo pubblico? È una cosa, deve essere uguale. Cioè tu dici quelli che vendono, gli immigrati che vendono le cianfrusaglie o gli oggetti eccetera, spesso sono illegali e invece agli italiani gli fanno un mazzo. Ma non è solo questo. Demetrio, provincia di Bergamo. Ciao Albè. Demetrio, provincia di Bergamo. Allora, una sola cosa. Sì, dimmi. Questi che vengono, delinquono. Sì. Fanno quello che vogliono, sporcano, ci infettano delle loro malattie africane. Sì, africane. Chi è questo qua, però, scusami? Tale Demetrio dalla provincia di Bergamo. Tale Demetrio, sentiamo. Vai, Demetrio, questi che arrivano, sporcano, ci infettano con le malattie, delinquono. Lancia fiamme, lancia fiamme, una bella pulizia generale. Mamma no, Demetrio, allora mamma torniamo, mia, torniamo. Non, io non so, no, non gli dico niente, guarda. Ma perché non devi dire niente? Perché scusa, sono. Che vuol dire lancia fiamme concretamente, Demetrio? È un'immagine, come dire, è un'immagine, una metafora per dire cosa? È uno schifo che uno non è metafora, non c'è metafora. Devi indignarti anche tu ma a un no, certo punto. Non mi indigno, senta, ascolto. Non è metafora, Demetrio, non è metafora. Che vuol dire lancia fiamme? Allora. Sì. Siccome sei Mussolini, vengono sei? Perché no, loro vengono. Sì, loro vengono. Perché noi gli diamo le loro case. Vengono. Sì. Gli facciamo il ricongiungimento. C'è una cosa Mussolini. No, è semplicemente ubriaco, guarda. Vai, Demetrio, allora? Allora, se noi semplicemente diamo un messaggio chiaro. Messaggio chiaro. Vieni qui. Sì. Rompi i coglioni. Sì, lancia fiamme. Delinqui. Sì. Fai quello che ti pare perché sai che ci sono i soldi che sono sottratti agli altri italiani. Nessuno sottrae soldi agli altri italiani. Aspetta, nessuno. Senti la fine certo, perché la barella non c'è, però i servizi per questi qua sì, giusto? Allora? C'è una diffusione. Dunque, ma che c'entra il lanciafiamme? Scusa, quando è che allora, interviene il lanciafiamme? Questo è interessante. Dalle mie parti si dice, mette bruce. Ti do fuoco, faccio il teleriscaldamento e riscaldo quelli che invece rispettano le leggi. Cioè, e tu vedrai che i tuoi parenti non vengono qui. Cioè, tu hai un'idea molto semplice di come ridurre la criminalità degli extracomunitari, che è quella di usare il lanciafiamme, cioè di bruciarli vivi. Mi sembra di aver capito o no? È solo mi sembra si analizza nel dettaglio, mi sembra di sì. O no, mi Demetrio? Questo, ma dopo risolvi anche il problema del riscaldamento perché fa freddo. Sì, ecco, questo, questa può essere una stupido. Battuta, immagino che, non, immagino che tu non vuoi arrivare a bruciare gli extracomunitari per ottenere riscaldamento, o davvero vuoi arrivare ad una soluzione finale, tanto per avere un riferimento? Sapete che loro fanno così a casa loro? Ma, no, no, in che senso, scusi, mi faccio capire certo, perché... Certo. Mio fratello, in Guinea Equatoriale. Beh, appunto, in Guinea Equatoriale. Tu, sì, Equatoriale. Nota democrazia. Il primo giorno l'ha mandato lì la ditta, sì. L'ha mandato lì a lavorare. E che hanno fatto? E lì era alla piazza pubblica e me l'ha raccontato lui. E mi ha detto, che hanno fatto? Hanno impiccato qualcuno? Che ha rubato dal mercato, sì. Non so che cosa, delle robe che erano lì. Allora? I cittadini gli hanno messo un bel tappeto intorno e gli hanno dato fuoco. La polizia che è arrivata. E che modello è questo? Perché lì è normale. E lei vorrebbe questo modello in Italia? Allora, se vieni qua e noi ti diamo tutto, tu ti senti fin troppo libero, anche perché quelli che vengono qua sono quelli che scappano dalle galere di là. Però, caro Demetrio, ti voglio segnalare che sì, non so se questa cosa che ti ha raccontato non so tuo fratello sia vero, ma la Guinea equatoriale non è un modello, esatto, come dire, qui magari siamo troppo lassisti, per carità, siamo troppo, concediamo troppa, dopo pochi anni uno un assassino va fuori dal carcere, tutto quello che vogliamo, discussione eterne, però io proprio non indicherei la Guinea equatoriale come modello. Se fosse vera quella cosa che dici tu, e credo che non sia vera, poi fino in fondo non credo che prevedano la pena di morte in piazza, allora non è che è prevista ovviamente. Questo è il fratello legge, di Mauro, la pena di morte, però dici nei fatti è così, nei fatti succede, di fatto si sa che se però faccia una cosa, chieda a un negretto che è qua e gli dici, uno di quelli che lavora, signor negretto, questo tu lo chiami razzismo o no, secondo te? Ma è razzismo questo o no, secondo te? Ma diglielo però, diglielo in faccia. Glielo sto dicendo. Diglielo in faccia. È un razzista schifoso, ma mi pare evidente. È un razzista schifoso. Lancia fiamme, immigrati porta le malattie che sono più vaccinati di lui, peraltro. Lui porta le malattie. Porta le malattie il suo modo di ragionare, perché infetta la società. Lui dice, usa un linguaggio che è tranquillamente razzista. Sarebbe da portare in tribunale. Immediatamente. Ma è un reato, il razzismo va sanzionato. Ma perché tu devi difendere un razzista? Ma io non sto difendendo razzista. Perché difendi il diritto ad essere razzista? Certo, assolutamente. Perché devi difendere il diritto di uno ad essere razzista? Ma in America non c'è il Ku Klux Klan, ma che vuoi? In America, vai a vivere in America. Ma io voglio quella società là. Qui da noi il razzismo è un reato fino ma ad oggi. Poi, quando vincerà la lista Cruciani, il razzismo non diventerà più reato. La gente potrà bruciare in piazza le persone. Potrà usare lanciafiamme e potrà prendere l'ottima costituzione della Papua Nuova Guinea. Potrà prendere quella costituzione lì illuminata e portarla in Italia e farla diventare il nuovo codice. Dopo il codice di Hammurabi. Vabbè, Demetrio, ti ha dato del razzista che devi essere portato in tribunale. Ma no, io gli ho dato. Ma è evidentemente un razzista. Demetrio, allora, che hai detto? Vaffanculo lui e la sua razzismo. Allora, ascolta, che vuol dire? Così ha risolto così la questione. Tanto è facile. Allora? Allora, pensa un po'. Io dico, se di là li trattano così, perché fanno così. Se voi chiedete a un negretto che c'è qua, che negretto lavora uno di quelli qua, e gli dici, ascolta, è giusto tagliare una mano, le mani a questi qua in pubblica piazza? Non credo sia giusto, secondo me. Quello lì che dice, certo, perché il mio paese... Vabbè, che vuol dire? Così. Che noi dobbiamo adottare quella roba lì? Vabbè, Demetrio, ciao, ti saluto. Ciao. Allora ragazzi, a grande richiesta, la prima puntata delle lezioni di sessualità della professoressa De Mari, Silvana De Mari. Ricordo, Silvana De Mari, chirurgo, medico, endoscopista e quant'altro, che ieri ci ha fatto una lezione. Una lezione magistrale. Assurda, diciamo la verità, una lezione assurda, secondo noi, però rispettabile a modo suo, no? Sull'omosessualità, il sesso anale, eccetera, eccetera. La situazione degli omosessuali, secondo lei dice di amarli, è tragica per l'uso dell'ano.

Però sono rimasto colpito da questo racconto molto crudo che lei ha fatto di quelli che sono i danni del sesso anale. Non sono d'accordo, e molta gente mi ha detto che pratica questa cosa da tanti anni senza nessun tipo di problema. Però, però lei avrà le sue prove, come dire, no? Certamente, come qualsiasi cosa, non colpisce tutti. Ci sono persone che fumano per anni senza mai sviluppare un cancro del polmone. La nostra sensibilità è estremamente diversa. Però scusi, io non capisco perché lei associa quella pratica sessuale per forza alla questione omosessuale, cioè dei gay. Ma scusi, l'ha sentita la cosa che ci siamo fatti l'altra volta? Sì. Io sono assolutamente molto contraria anche tra un uomo e una donna. Ma perché lei è contraria al sesso anale tra uomo e donna? Scusi, c'è un sacco di gente che lo pratica. Ma per quale motivo? Religioso? Un motivo pratico? Perché tutte le volte che un pene entra dentro una carità di nuovo, sta roba, sì, e poi la trasmettete stasera, Gesù bambino, che palle! Cioè, tutte le volte... Ma voi due parlate sempre in due come Chip e Chop. No, ma scusi, no, Parenzo, stai tutte zitto. Tutte le volte, come Batman e Robin. Tutte le volte? Entra nell'anno. Sì. Primo ci vuole il lubrificante. Vabbè, ma adesso, secondo si fanno delle lacerazioni più o meno micro, sì, e secondo si fanno delle lacerazioni sempre più o meno micro, più o meno macro, sì, sullo sfintere interno, sì, al punto tale che quando noi dobbiamo minacciare qualcuno, sì, gli diciamo: ehi tu, ti faccio un culo così. Cosa vuol dire? Beh, ma scusa, che vuol dire? Vuol dire che è un gesto di arbitrio, che è un gesto di violenza, che è un gesto di sottomissione. No, aspetta. Al punto tale che è un gesto che viene sempre fatto a sottomissione. Nelle iniziazioni sataniche. Come? È un punto fondamentale. No, scusa. Aspetta, no, questo è fondamentale. Signori. Ma perché è fondamentale questa cosa del satanismo? Iniziazioni sataniche. Perché la penetrazione anale, lei non ci crederà. No. Ma nell'ano non c'è nemmeno l'organo dell'orgasmo. Ma porca miseria, sono dimenticate di metterli. Pensi che tu Zorelloni. Apro una parentesi. Cosa apri parentesi? No, stai zitto un attimo. Devi stare zitto un attimo perché è interessantissimo. Allora, c'è un sacco di gente che prova orgasmo col sesso anale, professoressa. Io dico sì. Ma l'orgasmo non è lì, è da un'altra parte. E soprattutto il satanismo? Perché la cosa funzioni, deve essere un'inversione del senso del piacere e del dolore. Il satanismo, che purtroppo non sono due spessati, strafatti e ipertatuati che sgozzano capretti nei casolari, no, che purtroppo è ai piani alti, sì, ha delle precise cerimonie di iniziazione dove questa roba qui c'è sempre. Guardi, ne ha fatta una Angelina Jolie. Adesso lei va su YouTube e se la cerca. Ma non ho capito, scusi, non ho capito bene, non ho capito il collegamento. Cioè, la pratica di iniziazione del satanismo prevede il sesso anale? Esatto, proprio perché è un sesso di arbitrio. Adesso mi perdoni, ma devo proprio scappare. No, però, scusi. Piacere parlare con voi. Aspetti un attimo, scusi, questo è interessante. No, ragazzi, ma questa seconda lezione della professoressa De Mari è arrivata a un punto fondamentale. Bisogna farne una terza assolutamente, Parenzo. Domani o dopodomani, non so quando sarà. La terza perché puntata, ci sono... tu dici? Ma vabbè, ci sono due tesi fondamentali. La prima, no, ma voglio due riprendere da questo: satanismo e sesso anale. Cioè, lei dice che. Sì, no, questo è pazzesco. Ma dai, ma è una cosa incredibile. Questo posso dire che è una. Posso dire una frase un sì, po'. Dimmi. Posso dire una cosa un po'. Sai che è una frase criminale, no, questa? No, vabbè. Aspetta, prima. No, ma come. Vabbè. No, ma seconda cosa, ha detto che il satanismo non è di quattro sfessati, è nei piani alti. Il satanismo. E poi Angelina Jolie, che sarebbe stata iniziata al sesso, non so che. Cioè, ma di che sta parlando? Lorenzo, io ho provato il mio capo stamattina a dirgli alle 9:30 chiudiamo tutto, andiamo a casa, ma mi ha mandato a fanculo però. La zanzara. Il mondo non è ancora pronto per una ragazza che alle 3 del pomeriggio va a comprarsi da sola dei preservativi al supermercato. Devono per forza farti le battutine ammiccanti di merda o guardarti e farti un sorrisino. Che cazzo vuoi? Scopo, va bene? Brava questa ascoltatrice, brava, che che racconta a tutta Italia, anche davanti alla sua famiglia, Parenzo, anche davanti, no, appunto, davanti ai suoi cari. Sai che ormai non ho neanche più la voce per, no, esprimere dice, dissenso. Dice una cosa molto chiara: se una ragazza va a comprare alle 3 di pomeriggio dei preservativi in un supermercato, in una farmacia, sì, eccetera, ogni tanto c'è qualcuno ancora, ma poche persone, sì, in realtà, sì, che guardano in maniera un po' così, no? Dice che, sì, sta, ma perché facendo questa cosa dovrebbe, ma infatti secondo me è una cosa normale, uno può comprare a qualunque ora e quella dice giustamente io scopo, allora la cosa allora, che un po' allora mi incuriosisce, non mi inquieta, mi incuriosisce, che solo come sai un bacchettone è, perché questa adorabile signora, sì, ragazza, sì, sì, ritiene importante di mettere la sua voce e di telefonare alla Radio 24 e comunicarla, sì, all'universo mondo. È l'unica stranezza. Dopodiché, se è normale, va bene, è normale, è normale. Ancora Ilenia da Messina, no, Ilenia, quella che sarebbe stata ricoperta di benzina dal suo fidanzato, ma lei lo vuole salvare. La storia vera è questa, non le, non le cose della D'Urso. Dai, su, cosa c'entra la polemica sulla D'Urso sul femminicidio? Quella, ma chi è un'altra, se ne frega, cosa. Ma dai, su, ma che polemica ridicola è la D'Urso, le frasi della D'Urso. E questo, a mio parere, è servizio pubblico. Aver, no, portato, non dire ancora, sullo ancora schermo, roba, questa stupidaggine. Aver portato, sai, sullo che schermo, non è vero. No, è verissimo. Ma a me non me ne frega niente del servizio pubblico in generale. No, però, appunto, dico, siccome non te ne è mai fregato, no, nulla, non si dico, capisce perché attribuisce a questa cosa, roba, no, qua, ma lascia perdere, che infatti è una messa in scena non organizzata dalla D'Urso, ma è una messa in, ma scena, messa televisiva, in scena, è la realtà. Beh, è la realtà, realtà, la litiga con la madre, tragica, allora, cinica, ma che terribile, vuol dire? È la realtà, però. È la e realtà. Non è servizio pubblico, ma è un dolore messo in piazza. Ma scusa, è una lacerazione. Alla trasmissione, quella della cosa che fanno su Rai 3, a chi l'ha visto che fanno? Non mettono in scena drammi personali ogni giorno, ogni settimana. Ma che cazzo vuol dire? C'è differenza. C'è la ma cronaca qual è nera. La un conto è il racconto della cronaca nera di Truman Capote. Senti, questa qua. Un conto è la cronaca nera c'entra fatta così. Ma cosa Truman vuol dire? Truman Capote è un'altra cosa. Ma cosa vuol dire? Anche Truman Capote faceva la cronaca nera. Sei pazzo. Capote. Sei pazzo. Truman Capote. E paso lì, Truman Capote. Ma va. Truman, andate a vedere chi non è. Non fare l'intellettuale. Andate non a vedere sei chi grado, è. Dai, andate tu a vedere chi è Truman Capote. Non sei in grado. Non dai. Tu lo so, non lo sei sai. God Lerner. Andate dai a vedere. È uno scrittore, chi dai. Pure. Andate scrittore, a vedere chi sì era Truman Capote. Ilenia contro la madre. Vattene invece. Vattene. Vattene. Io con Barbara D'Urso parlo. Perché Barbara. Sì, è la rappresentante. Sì, sì, sì. Non è stato Alessio Mantineo, io lo difenderò fino alla morte, va bene? E guarda Barbara, te lo dico qua davanti a tutta la trasmissione, mia madre non l'ha mai potuto vedere ad Alessio, mai. Se lui gli butterebbe la benzina addosso per vederlo morire. Non l'ha potuto mai vedere, mai. Non l'ha potuto mai vedere. È una grande rappresentazione teatrale, drammatica, posso familiare. Dirti una cosa ancora più forte. Familiari, posso dirti una quella cosa? Quella che litiga con la madre. Ma che cazzo volete questo di più? Questo è il classico sottoproletariato. Ma è proprio ma questa è una tua proletariato. L'Italia è una parte d'Italia. Ma che vuol dire sottoproletariato? Ma che fa il sociologo? No, il sociologo è una valutazione. Ma i sociologi lo diranno altro. Di senti, senti ancora questa qua. Ti prego, senti, perché è eccezionale. Io la trovo veramente un pezzo eccezionale, stupendo, oltre che. Ma se capitasse non, a te io non dico ma mai se capitasse, se capitasse a te perché a me, non mi interessa dire, tu saresti tra no ti voglio chiedere ma non lo so questa tu saresti di a parlare, tra sono maggiorenni tu vaccinati hai gli strumenti culturali gente, per cui tu sei una persona basta, che metteresti tu cose metteresti in piazza questo il tuo dolore ma tu un dolore dire tuo ma lo metteresti mica sono andati lì forzati esatto ma non c'è dubbio ma sto e dicendo allora a te ma che vuol dire con i tuoi strumenti culturali ma io magari non ci andrei non lo so oh meno male ma che vuol dire ma non vuol dire che lo ammetti ma perché devi fare il superiore rispetto a Ilenia. Non è superiore, devi sentire superiore ma non rispetto è superiore. Questo è l'unico modo loro per essere, per apparire, per fare. Ma lascia perdere questa sociologia spicciola. Lei lo sa che vuole accanto di me avvocati, comandanti, tutti questi qua. Un ragazzo che lavora così commercialmente in un supermercato non va bene. Capisci Barbara? Ilenia però ascoltami un attimo. Chi era la tua mamma? Che ti ha detto sì di non fare l'intervista era la tua sì mamma. Mi ascolti, Ilenia? Sì. Mi senti? Allora, Ilenia, sì, io la tua mamma la comprendo. Io comprendo la tua mamma, sono mamma anch'io. Quindi, se lei magari desidera una persona diversa vicino a te, va compresa, ok? Va bene? Va compresa, ma la vita io la devo trascorrere. E questo perché è nel mio letto, poi, questo Barbara era. hai ragione, Ilenia, hai ragione, però ti prego, non voglio sentir dire che la tua mamma butterebbe lei la benzina addosso a un'altra persona. Lo dico per te, non lo dire questo. Sì, sì, non lo dire questo, Ilenia, ti prego. È tutto stupendo, meraviglioso, bravissimo. È un romanzo popolare. È un grande romanzo popolare. Pure con dialetto napoletano. Non lo perché tu lo vedi da un punto di vista del racconto della televisione. Ma scusami, questi sono maggiorenni, vanno lì, accettano di andare lì. Ma che cazzo volete? Ma io non sto criticando. Ma cosa volete? Nulla. Non rompete i coglioni. Io sto commentando una cosa. A me fa impressione. Fa impressione vedere quelle scene, diciamo. Mi fa impressione il fatto che delle persone decidano di condividere una storia come questa con la madre. Che davanti a milioni di spettatori. A me fa impressione, a te volta, non fa impressione. Mica la prima volta. Ho capito, mi posso dire che mi fa impressione. Vabbè, comunque la frase contestata, risentiamola e poi basta, dai. Fallo anche tu allora. La frase contestata, dai. Ma che vuol dire? Io non lo faccio, ognuno può scegliere se farlo o no. Tu? Ma non lo so, fai. Ma che mica mi è successo che qualcuno ha buttato la benzina addosso. Ma tu non lo fai? Pazienza, ma perché tu non fai queste cose? Ma non lo so, magari se mi buttassero la benzina addosso andrei a raccontarlo pure io, non lo so. Che cazzo ne so? Senti, Ilenia, ascoltami. Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore, troppa gelosia, fanno delle cose che non vorrebbero fare? Perché tu mi dici, dimmi Barbara, perché un'ora prima era lì che mi abbracciava e dopo un'ora dopo è venuto a buttarmi la benzina addosso e incendiarmi? Io ti dico, io non lo so chi è stato, io voglio credere a te. Però tu lo sai che ci sono uomini che potrebbero farla una cosa del genere per troppo amore e per troppo possesso? Questo lo sai, Ilenia. Ce ne sono. Sopra 100 ce ne sono 99. Lo so, lo so. Allora, è evidente che confondere l'amore col possesso è una cazzata. È una minchiata linguistica, aggiunto possesso, eccetera. Magari una frase anche sbagliata. Stanno inchiodando una che ha fatto un grande pezzo di televisione, secondo me, con il racconto drammatico, la madre che litiga con la figlia, meraviglioso per quel tipo di trasmissione. Vedete, non è che la televisione deve essere per forza quella, c'è anche un'altra televisione, naturalmente. Stanno inchiodando una frase, ma di che stiamo parlando? Ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? È legittimo, è ridicolo che se ne parli anche ma con sì, questi toni, per visto carità che si tratta di televisione e di cose. È ovvio che se ne parla, è ovvio che ci si scandalizzi. È diseducativa. Qualcuno dice chiudetela d'Urso. Ma che chiudetela d'Urso? Chi è che dice chiudetela d'Urso? Ma un sacco di gente. Ma chi? Ma chi? Ma no, una marea di gente su web. Frecero, secondo me, non lo dice Frecero. Ma no, Beatrice. Il web. Ma chi è il web? Sono le persone singole, no? Il web. Beatrice Firenze, vai. Ciao Giuseppe, ciao. Ah, ciao, questa è la ciao mitica Beatrice Ulmi, transessuale, fantastico. Ma mancava, è tanto tempo che non chiamava. Grande ascoltatrice della Zanzara. Sì, beh, è un po' di mesi, dall'ultima volta qua di Nolfi. Non potevo non chiamare stasera, dopo aver sentito per ben due sere quella meravigliosa dottoressa che non mi viene il nome. Aspetta, De Mari. Topolina. La dottoressa Topolina, non si chiamava Topolina. Parenzo, per favore, vuoi smettere di avere collegato il tuo iPad, il tuo telefono e di agitarlo mentre stai qui in diretta? Allora, sì, non o sono no agitato. Come puoi vedere dalla telecamera in oggetto? No, io non lo sto vedo. Male. Non mi interessa, fa rumore. Io sto vedendo delle notizie. Visto ma che questo notizie qui, vabbè, il computer cagare, che è davanti a me, adesso lo fotografo e lo twitto, così vedete. Funziona, cosa c'ho davanti, non funziona. Funziona per vedere il flusso di notizie, quello che succede. Vabbè, ogni tanto ho bisogno di avere il vabbè computer voglio davanti. Voglio sapere da Beatrice che ne pensa. Basta, ma io vado via a questo punto. Ma io me ne vado. Mi hai dato l'occasione per andare via. Vado via. Vai, una protesta. Parenzo, non andare via. No, va bene. Lei è una grande sostenitrice di Parenzo, Beatrice. Sì, molto sì, io sono parenziana. Vabbè, sono parenziana, non ci siamo mai incontrati. Vai, Bea, dimmi. Ma ci incontreremo. Allora, no, ascolta, insomma, praticamente. Ma perché ti fa schifo, Beatrice? No, perché? No, perché mi fa è transessuale? Cioè, ti fa schifo? No, stai dicendo che ti fa schifo in pratica? Non mi fa schifo. No, però non la voglio incontrare. È una bravissima persona, bravissima ragazza. Diritti. Bravissima ragazza. Per i suoi diritti. Si è operata, mi sembra. Ma va bene, ma non mi interessa cosa fa. Può fare qualunque cosa per me. Non ho smesso il sesso anale. Ecco, no, cioè, anzi, meno male, anzi, diciamola tutta, viene data con Tokyo chiusa, dai. Diciamola tutta, dai, Bea. L'indice Nikkei, allora, altrimenti. Il discorso riduciamolo all'osso, il discorso. Riduciamolo all'osso. Io ho quasi 50 anni, sarà 40 anni che lo prendo nel lì dietro, insomma, okay, sì, ci siamo capiti. Sì. Il discorso è questo, no, aspetta, che volevo 40 dire. Forse è troppo, scusami, se c'hai 50 anni forse 40 è troppo, amica mia. No, perché sai. No, vabbè, però non ha andiamo su queste cose qua, non andiamo per carità. Su queste cose. Volevo dire solo un aspetto, sì, una cosa. Sì. Quando lei mi dice che è contro natura, sì, dice una falsità per due motivi ben precisi. Uno, perché c'è l'orgasmo prostatico. Se il Dio su cui crede lei ha creato l'orgasmo prostatico, vuol dire che il sesso anale ha un senso anche per quanto riguarda il sesso e la penetrazione. Questa è buona. Perché sennò non avrebbe nemmeno inventato l'orgasmo. Questa è buona, Parenzo, però. Questa è una buona analisi, una buona riflessione. Come tu ti ecciti. No, non mi eccito, però a me piace il dettaglio. In ogni piace il dettaglio, sì, ma non solo nel sesso, nel racconto del sesso e di quello che succede in Italia, nelle famiglie, nelle case. Mi piace sempre il dettaglio, è sempre importante il dettaglio. Ora, Beatrice, che è una transessuale, ormai si è tagliata il pisello, non so da quanti anni, Bea, vabbè, mi ricordo. Ma questo chi se ne frega? Dieci, da 10 anni. Ma dice che lo prende in sede, lo prende da 40 anni, no, diciamo da 20 anni, da 25. Che cosa hai quelle ripercussioni drammatiche di cui parla la dottoressa De Mari? Assolutissimamente sì, no, questo non lo puoi sapere, però mai avuto. Non lo puoi sapere. Come non lo posso sapere? Magari se vai a fare un'endoscopia o una cosa scoprono delle cose terribili. Ma il sangue io non l'ho mai visto. Nel tuo di dietro, insomma. Non l'hai mai visto. No, mai avuto però problemi. Bisogna prendere per buona questa testimonianza, caro Parenzo. Cioè, di una persona che lo prende da tanti anni in quel posto e che non ha avuto le ripercussioni di cui parla la dottoressa. Pensate. E vabbè, ho capito, questa è una testimonianza diretta, diciamo. Poi, comunque, anche l'ano, volevo dire un'altra cosa tecnica. È fatta proprio... si allarga proprio per menino, questo non lo è sappiamo, una cosa... questo lo sappiamo, grazie, per cui è proprio naturale di questo dettaglio, cosa, grazie. È proprio naturale. Sì, grazie, sì, ma è una discussione che è stata innescata da un medico, anche abbastanza affermato in Italia, di Torino, eccetera. Un medico mi piacerebbe parlarci con questa dottoressa, perché le sue convinzioni poi alla fine al non si preoccupi, vedrà che Cruciani organizzerà un grande forum o focus per citare la trasmissione focus che ci precede, anatomia, non esatto, focus economica, focus anatomia, parteciperò molto volentieri. Molto perché, sì, perché il problema è questo, sono tutto fare nasce dalla religione, mese, poi alla fine queste sì, bravo, vittime bravo, che bravo, danno bravo, nasce bravo, tutto bravo, da lì. Non ciao, c'è Bea, altro, ciao caro, ciao. Arrivederci, signora. Se Cabagegi lì, come si chiama, va al cinema e un suo compare a metà film urla all'Akbar, lui e i suoi figli scappano. La Zanzara. Ciao, buonasera, io sono un camionista, un autista meglio dire, no? È possibile che per strada devo vedere questi negri di merda che vengono spostati da nord a sud dell'Italia, scortati anche dalla polizia? È la cosa bella che poi si fermano negli autogrill, nei parcheggi, vanno a urinare e ci sta ogni tanto pure qualche ricchione che corre a vederli, hai capito un po'? E poi ultima cortesia, ma il Mago Telma ci sta qualcosa che fa passare la febbre e l'influenza? Che sto in viaggio. Vabbè, questo è matto, caro Davide, questo è matto, caro camionista, amico mio, è eccessivo, mi sembra, no, Parenzo, o no? Abbastanza, però proverei a chiamare Otelma per capire se ha capacità guaritorie per la febbre, insomma. Allora andiamo, Nino da Lodi. Nino da Lodi, vai Nino. Sì, pronto, buonasera Cruciani, buonasera a te. Ciao, dimmi. Volevo parlare di altro, però ho sentito la dottoressa De Mari. Sì, no, prima parlami di altro, poi parliamo della De Mari. Che cosa volevi dire? Allora, la questione era il cane, sul funerale del cane messo dentro nella cappella di famiglia. Sì. Io sono un cacciatore. Sì. Ami gli animali? Io adoro gli animali. Vedi, questa qua è la dimostrazione, se lo dice lui naturalmente, però secondo me è proprio così, cioè i cacciatori amano gli animali molto più degli animalisti, ma molto di più, io ma non adoro, c'è dubbio. Io adoro i miei cani, per me, sono tutto. E che cosa cacci tu? Che cosa cacci? Beh, io ho una riserva di caccia qua a Lodi e vado più che altro a piuma, quindi cioè? Fagiani, pernici, fagiani, rosse. Sì, ma sono tutte cose di allevamento? No, io ho un buon sistema di riproduzione nella mia azienda, quindi... Ecco, ma tu nei confronti di quelle pernici, di quei fagiani che uccidi, perché poi li uccidi, no? Diciamo le cose, certo, come stanno, li uccidi. Cosa provi? Certo. Cosa fame prova? Io? Niente. No, io, certo, fame esattamente come dice Parenzo. Se le mangi. Vabbè, fame le mangi, ma uno, adesso, vuol dire, non è che lo fai per necessità, insomma, no? No, gli piace, no, volendo, però c'è da dire una cosa: io quando si arriva a un determinato numero io chiudo la caccia senza aspettare la legge che dice è chiusa la lepre. Da me, per esempio... Vabbè, ma è normale, ci sono dei numeri, dei numeri che ci sono, questo è normale che no, sia così. No, però io rispetto ancora di più, nel senso che io chiudo la lepre ancora prima di quando lo dice la legge dello Stato. E vabbè, questa è una tua scelta, amico mio, che ti ma devo certo, dire? Ma, sì, no, ma certo, ma questo qua è fatto perché? Perché io adoro gli animali e l'idea di andare a togliere tutte le lepre in riproduzione nella mia azienda, no, perché mi piace vederle anche durante l'anno. È questo, l'animalista è uno che tortura gli animali. Cioè spiega, tu, tu che sei un cacciatore, adesso bisogna spiegare bene questo concetto, tu sei un cacciatore, dici e spari alle pernici, ai fagiani, eccetera, eccetera. Sei uno sei uno che ama gli animali. Allora, io dico una cosa. Invece l'animalista li tortura, adesso questo va un po' spiegato però, amico mio. L'animalista lo tortura perché se c'è una cretina, scusatemi, di Milano Centro, biondina, coi tacchi... che prende un chihuahua, che è un cane che ha una generica, pensavo ti rivolgessi a qualcuno. Una generica. Che prende un chihuahua e lo porta a Milano. Un chihuahua è originario del Centro America, come cane, allora? È abituato a temperature. Vabbè, però il chihuahua sono da una vita che sta in Italia, amico mio, non è che adesso... No, aspetta, tu hai mai visto un chihuahua con queste temperature di questi giorni come sta? Vabbè, tu dici gli animalisti, gli amanti degli animali spesso torturano gli animali? È lei che lo tortura. Invece tu che li ammazzi, no? Io no, perché se io compro un bracco tedesco, per dire, io il bracco tedesco non lo tengo in appartamento. No, però il cane d'accordo, il tuo ami il cane, ma dico, le pernici o i fagiani che cacci, come li consideri? Io li considero dei bellissimi animali. Che però servono per magnarli, diciamo, per essere certo, mangiati. Certo, ma il fagiano non è neanche nostro. Il fagiano è stato introdotto. Ma quanti ne cacci tu? Ma dipende da... Cioè all'anno, quanti ne ammazzi? Io nella mia riserva ne libero 400. E quanti ne fai fuori? Ma più o meno... non so, 280. 280. Adesso davvero è successo casualmente, ma voglio interpellare perché l'avevo chiamata sulla caccia. Tu stai lì fermo, immobile un attimo, Nino. La signora Daniela Martani. Ciao Daniela, buonasera. Ciao, buonasera. Eccola. Allora, questo signore che ha appena parlato, Parenzo ha chiesto come stai. Come sta? Ho chiesto. Sì. Va bene, grazie. Con voi come state? Non c'è male, ce la caliamo, ci difendiamo. Siamo così, siamo due vecchietti ormai. No, tu sei vecchio, 10 anni più di me, io sono che ci, però ne dimostro di meno di te, che vuol dire? Cioè, sì, però Daniela, questo signore che ha appena parlato e che hai sentito, che si chiama Nino da Lodi, che è un cacciatore, secondo te è un criminale, è un assassino? Che cos'è questo signore che ha appena detto che ammazza 280 tra uccelli, fagiani, pernici, eccetera? Che cos'è? Ma io devo dire la verità, a me i cacciatori mi fanno realmente molta pena. Io li trovo pena, dei poveretti, sì, degli sfigati, poveretti, impotenti. Ma che impotenti, vanno impotenti, a, però non sì, lo che esplicano praticamente questa loro impotenza, questa, come posso dire, sono così... cioè scopano poco, così secondo tanto, te? Soffrono così tanto della loro impotenza che vanno a stare, penso un po', a degli esseri indifesi, vabbè, totalmente questo, inermi, con delle armi, quindi neanche vanno con certo, le loro sparare è difficile a mani nude, quindi ad armi pari in teoria, no? Come fa il leone quando va a cacciare la gazzella, non c'ha no, perché fucile. Impotenti, però questo è interessante, scusa, sono Nino, impotenti, tu ti... Nino, ti senti impotente tu? Nino, sei impotente? Ma si sa, poverini, cioè loro devono, sono frustrati da questa loro impotenza e devono andare a sparare in giro. Scusa Nino, ti senti impotente tu, Nino? No, io personalmente no, funziona ancora abbastanza bene. Ma non lo può dire il signore, però... chiaramente si vergognerà. 300 fagiani là, 300 fagiani ammazza. 300, cioè, è veramente sì. un poveretto, cioè un animale che vive libero nel bosco, no? Arriva uno con un fucile. Con fucile, certo, non è che può sparare con... Tra l'altro, volevo dirvi una cosa. Allora, i cacciatori dicono di amare gli animali, dicono di amare la natura. Per me è vero, tra l'altro. Assolutamente falso. Ma perché è falso, che ne sai? Quello dice, cosa, quello dice che li ama gli animali, adesso gli puoi dire che è falso. Ama. E allora, come gli uomini che dicono di amare le donne e poi le vanno a ammazzare. Allora, no, quello è l'amore. Cosa, di però, che cosa stiamo parlando? Parliamo sul serio o scherziamo? Allora, un cacciatore non si deve permettere di dire che ama gli animali. Allora, non solo non ama gli animali, non ama neanche la natura, perché voi dovete sapere. Io voglio parlare perché il signore ha parlato fino adesso. Posso parlare? Allora, dovete sapere che i cacciatori inquinano l'ambiente in un modo Vabbè. Allucinante. Aspetta, 336 Nino, ho capito, Nino. Di cartucce l'anno vabbè, che vengono sparate da questi dementi. Una cartuccia contiene tu gli hai dato, scusa, però tu gli hai... pallini di piombo. Gli hai dato del demente, gli hai dato del demente e dell'impotente, però, amico mio, poveraccio, demente, ho impotente. Detto i cacciatori, e poi il cacciatore. Signore è cacciatore. Poi il piombo è altamente inquinante. Vabbè, questo lo sappiamo, Nino. Acquifere, inquinante dell'ambiente. Vabbè, lo sappiamo. Un attimo, ma lo sappiamo, Nino. La voglio dire questa cosa. Vabbè, ma è inquinante, però, vabbè. Dire, l'impatto che ha anche sulla salute delle persone, perché dovete sapere. Vabbè, però adesso non possiamo fare la cosa del piombo, dai, aspetta. No, va bene, è pericoloso, vabbè. Ma io ti dico che ci sono 10.000 tonnellate all'anno di piombo lasciate da questi dementi. 10.000 tonnellate, adesso bisogna vedere, dai. Sono dati ISPRA, corrispondenti a 1.400.000. L'ISPRA, dato, è di fronte alla Radio 24 a Roma. Io non ho capito, Nino. Ma allora, io capito, sei cacciatore o no? Sei impotente? Io voglio capire se sei impotente o no. Ma sinceramente no, poi non ho... magari non lo sai, come dice la signora Martani, magari non lo sai, sei impotente non lo sai. Ah, non lo so magari, no, invece ieri sera me ne sono accorto di non esserlo, poi non lo so. Però comunque questi qua sono discorsi abbastanza bassi. No, basta, io uno dice che è impotente perché c'è una questione di metafora, lei dice, signora Martani, no? Cioè, ma sfogano la loro impotenza, i cacciatori... La signora Martani, sì, come si chiama, sì, non capisce e che dovrebbe cosa? Documentarsi che in questo paese, se non fosse per i riservisti come me, i riservisti sono proprietari di riserve di caccia, che succede? Se noi non liberassimo ogni anno pernici rosse, fagiani... Non ci sarebbero più questi animali, ma non per colpa dei cacciatori. Vabbè, però questo è un discorso lungo. Io non ho capito una cosa: eserciti o no? Scopi o no? Questa è di fronte all'accusa così, della Martani. Scopo, Daniela, mi dispiace, non è impotente. Non è impotente, mi dispiace. Aspetta, ogni preda ha il proprio predatore. Voi state ammazzando i predatori, è chiaro che poi rimangono soltanto le prede e dovete poi intervenire voi. Ma in realtà stanno uccidendo i predatori naturali di questi animali ed ecco che devono intervenire questi dementi, che io ripeto che sono dei dementi, poverini, veramente mi fanno pena. Ma perché ti fanno pena? Non ho capito. Perché ha bisogno di andare a sparare un essere indifeso, ha capito, che vive la sua vita. Nino, ti devo salutare, Nino. Aspetta, Daniela, vabbè, lo sappiamo, aspetta, Daniela, ferma che saluto Nino. Ciao, Nino, ciao. A me piace la Martani perché c'è un ascoltatore che interviene, un cacciatore, e lei subito impotente, è bellissimo, impotente, io non sono d'accordo per niente, anzi adoro la caccia, come sai Daniela, adoro la caccia. Senti, è vero, dai Cruciani, voglio vedere. Come no, adoro la caccia, assolutamente. Voglio venire con te, andiamo, ti do un coltello in mano e devi ammazzarmi un agnello davanti a me, voglio vedere. Ma che c'è, ma perché lo devo fare io? Cioè, sono le persone preposte a farlo, ma perché lo dovrei fare io, scusami? No, perché visto che tu ti batti contro, tu sei così a favore della... Questo carne, ha ragione. Devi avere anche la capacità. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Come ma no, perché lo fanno predatori? I macellai, lo fanno quelli che li cacciano, quelli che li prendono. No, però se a te piace la caccia. No, però nel merito ha ragione la Martani. Cioè, se a te piace la caccia, ti piace sparare all'animale. Non è vero, ma no, ma non è vero, io non è che mi piace la caccia. Cosa ti piace della caccia? Io paradossalmente sono molto più, come posso dire, coerenti i cacciatori rispetto a chi va a mangiare la carne che la va a comprare dal macellaio. Senti, questo non vuol dire. Domande e risposte, Daniela, questa qua. Allora, in Veneto che è successo? Che hanno approvato fatto una legge che multa i cacciatori, multa fino a 3.600 euro chi molesta i cacciatori. Legge straordinaria, io direi, straordinaria. Straordinaria. Perché dovete andare a rompere i coglioni ai cacciatori, ai pescatori? Cioè, perché dove... Stiamo scherzando, ma loro che vengono a rompere i coglioni, uno non può più andarsi a fare una passeggiata in un bosco che si rischia di prendersi un impallinato. Ma vado nei boschi. Ma vuoi sapere quante vittime della caccia ci sono, a parte i Ma è una legge criminale questa roba qua. Questa legge qua è criminale. È criminale questa legge. Ma è... Che cosa? La legge? Ma perché io spero che venga bloccata e sia fatto ricorso. È una cosa allucinante. Ma perché? Se tu vai a disturbare uno che caccia o che pesca, se rompi le ma se tu stai in mezzo a un bosco e stai facendo una passeggiata a Parenzo con tua figlia, no? E te ma quello che c'entra, no, però se vado in una riserva di caccia, scusi, io con mia figlia però, cara Martani, non vado in una riserva di caccia. No, i cacciatori possono sparare adesso, possono... Vabbè, ma lasciamo perdere. Se tu vai a disturbarli, solo nelle riserve di caccia. Scusami Daniela, non è così, ma non abbiamo mai sentito di cacciatori che hanno sfondato anche le, con le, sì, con vabbè, i pavimenti, le finestre, le porte delle, vabbè, hanno, ma quello hanno ci sono, persone, ci sono le leggi. Scusami. Allora, questa legge qua, se tu vai a rompere le balle a chi sta cacciando, ma le balle, vabbè, ho capito, cioè, ho è, capito giusto è giusto andare a rompere i coglioni a questi qua, secondo assolutamente te? Assolutamente sì, e non, una legge così non fermerà. Io vado a farmi una passeggiata e metto la musica altissima, voglio vedere che cosa succede, che fanno, mi arrestano, cioè, perché vado in tu giro andrai, così. Vai in Veneto a fare una grande cosa di disobbedienza, vai ma in io Veneto. Spero che venga fatta una manifestazione, a parte che io spero che venga fatto un ricorso naturalmente delle associazioni animaliste e ma miei, quelle non miei mancheranno, appello, come non mancheranno. Tutte le associazioni non mancheranno, poi, però vai a fare una grande cosa, non vai, ma vai quelli a... che vanno a rompere, scusami, cosiddetti a, in giro, sono proprio loro, perché ti ripeto, tu dici, cioè, dici se uno va a pescare, se uno pesca va disturbato, va disturbato, se uno pesca va disturbato. Certo, assolutamente sì. Ma perché un poveraccio, un vecchietto che va a pescare a prendere i pesci va disturbato? È un assassino, basta, che è un assassino sto vecchio. Ma scusami, allora vogliamo fare una bella cosa, vogliamo essere coerenti fino in fondo, eliminiamo i negozi dove vendono carne e pesce. Allora ognuno si va a pescare e a cacciare la, cioè tu elimineresti i negozi che vendono carne e pesce? Assolutamente sì, io preferisco, ragazzi, che uno vada a cacciare. Allora, proprio vuoi mangiarti un pezzo di carne, te lo devi andare ad ammazzare te. Ma mai lo stiamo, è meglio Evo. Te lo devi macellare te. Allora, siccome il coraggio non ce l'ha il 90% per cui i ristoranti cinesi andrebbero chiusi, secondo te, sai che hanno trovato delle zampe forse e di quelli orso. Giapponesi, scusa, ma sì, ma chiaro, vabbè, ma cioè i ristoranti cinesi secondo te andrebbero chiusi d'imperio, praticamente, lascia perdere proprio quelli cinesi che sono proprio il non plus ultra degli animali esposti. Anche che faresti con i ristoranti cinesi tu? Vabbè, il ristorante cinese mo adesso, perché c'è stato questo caso di zampe di orso trovate, e poi non è manco sicuro, ma in posso generale dirti che una delle cose più buone che io ho mangiato in queste vacanze è stato il manzo di Kobe, una delle cose più buone. Buonissimo, che... ottimo, sai cos'è ottimo, il manzo di Kobe? No? Buonissimo. Ragazzi, ma è eccezionale il manzo di Kobe. Ragazzi, fermi che c'è la pubblicità. Daniela, resta con noi che sei sempre la numero uno. Aspetta. Ma siamo sicuri che sia stato il cane e che non abbia cagato la Celentano? Cagato la Celentano. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Tutti fanno pronostici, non tutti nel posto giusto. Scommetti nelle agenzie SNAI o su SNAI.it. SNAI, the playmakers. La Zanzara. Parenzo, io vado a Mignotte in Austria, vado a Mignotte in Slovenia. Vado in Mignotte in mezzo alla strada, vado a Mignotte dove capita. Anzi, Giuseppe, dammi il numero di Lucia che gli faccio un bel tagliando, visto che sto vicino Cotroipo. Dopo una giornata stancante, sono sulla tazza del cesso, sto cacando e ascolto la Zanzara. Bentornati ragazzi, ci eravate proprio mancati. Ah, ma questa è il numero della Zanzara. Ah, vabbè, fa lo stesso. Questo è il numero uno. Già fatto, già tutto fatto anni fa. Allora, ragazzi, stanno succedendo cose incredibili. Il padre della legge che hanno approvato in Veneto contro i disturbatori dei cacciatori, cioè Berlato, le multe, perché si chiama Berlato, no? Sì. È stato anche parlamentare europeo, è adesso consigliere regionale, è un cacciatore. E praticamente viene minacciato, gli hanno mandato pure delle fotografie sue con il cerchio intorno, viene minacciato per questa roba qua. Daniela, è normale minacciare una persona per questa roba qua? Cioè, ma io non ho capito, io voglio sapere una cosa, scusami, dovete spiegare veramente una cosa. Allora, ma gli esseri umani secondo voi sono intoccabili? Cioè, quando fanno delle cose sbagliatissime, no? E cioè, allora? Cioè tu che faresti? C'è il diritto ad uccidere, non ho capito. Cioè, che faresti a Berlato? Che faresti a Berlato? Non ho capito. Che faresti? Quello che ha fatto questa legge qua, che gli faresti te? Non ho capito. Spiegami. Ma io, allora, chiaramente è una legge, come ho detto prima, è una legge allucinante. Cioè, ma che gli faresti a uno così te? a uno così cacciato. Ma io uno così lo caccerei a calci proprio fuori. Che cos'è lui, un parlamentare? Che cos'è che ha detto? Consigliere regionale in Veneto. Consigliere regionale lo caccerei a calci fuori dal consiglio. È stato eletto dalla gente. Quindi si è fatto la legge ad personam, perché questo ha fatto il signore. Questo un po' è vero. Io spero che venga bloccata. Vabbè, lascia perdere, che venga bloccata, vabbè, questo lo decideranno gli altri. Ma io non voglio ancora capire una cosa. Uno che caccia, secondo te, merita di essere ucciso? Merita di morire? Questo è il punto fondamentale. Allora, uno che caccia e gli succede qualcosa mentre va a caccia, se l'è andato a cercare, per quanto sì, ci ma riguarda. Se poi muore in altre circostanze, tu sei felice se muore un cacciatore? Questo è il punto. Cioè, sei contenta se crepa? Sei un cacciatore che ha, come quello di prima, no? Ha ammazzato 280 tra fagiani, pernici e uccelli, ce l'ha detto tranquillamente. Vabbè. Come tanti altri, peraltro. Se crepa, se muore, tu dici uno di meno? Ma scusami, a te invece tu piangeresti un cacciatore che muore? Dimmi la verità. No, ma io no, ma se non è mio parente perché devo piangere? Idem, la stessa identica cosa. Ho capito, però sei contenta se muore un cacciatore, se muore un cacciatore sei contenta, cioè dici uno di meno, cioè, o no? Uno è sicuramente uno di meno, ma sono, diciamo, come posso dire, indifferente nella misura in cui può essere indifferente rispetto a una persona che non conosci, non hai mai avuto. Però meglio un cacciatore morto che uno vivo. Ma quello chiaramente meglio uno morto, un cacciatore morto che vivo, questo dico. Noi cerchiamo di tutelare la vita degli altri, degli esseri viventi. E dunque chi ammazza? Chi vuole togliere la vita agli esseri viventi, non lo so. Se muore uno di meno, se muore. Ma tu vorresti, non lo so, ti chiedo, allora, uno di meno, ma tu mi hai detto sì, uno di meno. Un dittatore che ammazza migliaia e migliaia di persone. Ma che cosa c'entra? Ma che paragone è, scusa? Ma che razza di paragone è? Non è un paragone corretto. Perché gli animali non contano zero, no? C'è gente che vuole seppellire gli animali nella tomba di famiglia. Cioè, tu quanti animali hai? Io? Sono tre animali. Quando muoiono, vabbè, che fai? Dove li metti? Nella tomba di famiglia, accanto a te? Dove li vorresti questi quando muoiono? Ma chiaramente, no, vabbè, li metto. Ma la vuoi far cremare per averla sempre vicino, chiaramente, sì. Cremare. Vabbè, questo sì. Ognuno fa quello che gli pare, dai. Cioè, cremare... Fa anche il servizio di cremazione per animali. Lo so, lo conosciamo bene. Sì, abbiamo chiamato qualche volta. Ma lo fanno addirittura noi, anche per le persone lo fanno. Ma tu lo sai che fanno diventare le persone dei diamanti? Sì, sappiamo anche questo. Abbiamo esplorato anche questo aspetto. Voglio fare l'elogio della Cassazione che ha disposto il sequestro dei cani se abbaiano e disturbano il riposo delle persone. Cioè, possono essere sequestrati. No, aspetta, è letta bene quella cosa. Stupendo, però vuol dire considerare gli animali come gli uomini. E voglio fare l'elogio della Svizzera, l'elogio sì, però vuol dire questo in contraddizione, perché vuol dire che la Cassazione riconosce all'animale. No, se tu mi rompi i coglioni mentre riposo, puoi essere. Non hai letto la sentenza. La sentenza dice chiaramente che il cane abbaia se non viene trattato in un determinato modo, quindi se viene sempre lasciato fuori. In realtà dire, quella basta, è una condizione, come posso dire, non per il cane, ma una condizione per il padrone che molla. Sì, il cane. Vabbè, però comunque sequestrano il cane, non il padrone, però. Cioè... Sta lì, praticamente tu devi tenere. Il mio cane non abbaglia mai, sai perché? Perché sta sempre dentro casa, sul letto, adesso in questo momento sta accanto a me. Torturi il cane! Torturi il cane! Sempre dentro casa! Torturatrice del cane! Lo tieni come. Sì, ma perché sempre dentro casa? Ti denuncio a qualche associazione. Se io la metto nel balcone, il cane abbaglia, piange. Come fa a cagare? Perché... Scusa, caga sul letto ogni tanto? Ma no, ma io la porto tutti i giorni, tre volte al giorno al parco. Mamma mia, qui c'è gente che cani che cagano in studio, una cosa incredibile. Vabbè, ma questo che male i cani vanno trattati come. Quando ti prendi un cane, ti assume la responsabilità. Senti, a proposito, ti voglio chiedere una cosa. La signora Innocenzi, Giulia Innocenzi, che è una giornalista e che ha scritto un libro contro gli allevamenti intensivi, è stata attaccata dai vegani. Viene attaccata. Perché lei si è detta quasi vegana, non ancora vegana al 100%, no, in realtà non è per e anche perché ha invitato Vissani alla presentazione del libro, uno che ha detto che ammazzerebbe i vegani, adesso più o meno ha detto così, anche se poi non li ammazza concretamente. Sì. Allora, come la consideri tu, una traditrice del mondo vegano, la signora Innocenzi? Come io in realtà mi sono dissociata da questa cosa, prima perché Giulia la conosco e poi seconda perché ho trovato questo attacco che non ha senza senso in realtà, perché comunque è una persona che in qualche modo sta dando voce con la sua visibilità comunque, a una problematica seria, quella appunto di allevamenti intensivi. Quelli che l'attaccano sono programma. Dei coglioni, si può dire che sono dei coglioni quelli che l'attaccano? Sì, io ti posso dire che alcuni vegani sono dei grandi stupidi, non ti posso dire la stessa parola, sono degli stupidi, sì, perché sono, cioè, devono... Cioè, ma esistono animali gay? Penso di sì, esistono, sì, assolutamente. Cioè. Però voglio dire che non è che noi in qualità di vegani siamo perfetti, quindi voi vi sentite perfetti, di puntare sempre il dito contro gli altri, questo non lo possiamo fare, perché noi cerchiamo, come possiamo dire, di essere il male minore. Ma vorresti il tuo cane nella tomba con te, no? Perché ma non vuoi, più tardi possibile, naturalmente. Allora, dovrei morire insieme a lei, io spero di vivere molto a lungo, purtroppo mi dispiace che i cani abbiano una vita breve, quindi insomma... Cioè vorresti che accanto... Sì, accanto, tumulato con te nella tomba, accanto a te. Sì, quando morirò io, sì, perché no? Il cane magari che arriva fino anche alla fine. Io non do molta importanza, diciamo, al luogo in cui vieni deposto, cioè non mi interessa, perché io penso che non sia interessante quello, cioè io credo che l'anima poi non sia in quel posto lì, capito? Cioè, vabbè, quello è un altro discorso. Addirittura a me piacerebbe, in realtà, visto che ci sono le urne per diventare alberi. E allora? Quindi vorrei diventare un albero dopo morta. Ma non puoi diventare un albero. È difficile. Sì, vengono delle urne dove poi mettono i due ceneri. Non puoi diventare un albero. No, le due ceneri le mettono dentro questa. Sì, vabbè, d'accordo. Ma non puoi mica diventare un albero. È difficile diventare un albero, cioè. No, però, diventi concime, dici? Diventi un concime per questo albero, questo seme. Ma che non può avere, questo... Ma uno non può avere l'aspirazione quando muore a diventare concime e poi un albero. Vabbè, quello però è poetico. Ma anche. Scusa, perché no? Ma perché non lo so. Tu che cosa vuoi diventare? Ma un vibratore a questo punto? Non mi interessa. Tu vuoi reincarnarti? Cosa vuoi essere? No, tu? Io voglio. Non lo so, ma che cazzo ne so. Ciao, Daniele, buona serata. Ciao. Claudio da Milano, vai, Claudio. Claudio. Pronto? Dimmi. Aspetta, sto abbassando la televisione, sto vedendo 8:30. Che c'è 8 Bravo. E mezzo? Che c'è? Parenzo, sto vedendo 8:30. Che c'è 8 bravissimo, e mezzo? Bravissimo. E c'è Travaglio. Come mai? Una cosa strana. Il giovedì gnocchi. No, cos'è oggi? Che giorno è oggi? Giovedì gnocchi, quindi giovedì Travaglio. Giovedì Travaglio pagato dalla 7. Ma cosa? Vai. Niente, io così, ma è normale, ma è giusto. Non lo so io peraltro. Sì, so. Sì, è così, dai. Ah, lo sai tu. Vabbè, sì, ma chi te ne frega? Ma chi se ne frega? Ma dico così, Claudio. Ma dici così cosa? Ma non è che ho detto che è un criminale, dai, su. Ma no, ma ho capito, ma cosa dici? Che senso ha? Comunque, andiamo. Ma tu dici tante cose senza senso, non posso dire la cosa io, non ho capito. Ragazzi, volevo farvi complimenti per la dottoressa che ha aperto un capitolo fondamentale. Cioè quale dottoressa? Quella dell'anno, dici? Quella dell'anno, sì, aperto, perché io sono urologo. Allora, tu sei urologo? Beh, io ho una famiglia di medici, tra cui un grande urologo. Dimmi. Uno dei problemi dei trans, per esempio, è quello dell'incontinenza. Cioè in che senso? I trans cagano di più? Cioè cagano, sono incontinenti nel cagare, dici? Purtroppo no. Questo cos'è, il famoso gran finale? Spiegami cos'è, cos'è questo qui? Cos'è il gran finale? Perché pidi per il culo un urologo? Questo è un urologo, persona serissima. Quando fate l'esame della prostata, purtroppo qualcuno ha delle perdite, perché è stato sfondato la valvola. Mamma mia, ragazzi, ma c'è gente che magari a cena, ma perché bisogna dire ma chi se ne frega? Ma però è un urologo, arriva l'altro, però è un urologo, siccome un urologo può dire qualunque cosa. È una porcheria, ma parlatene nei congressi scientifici di medici. Però, Claudio, tu mi stai dicendo una cosa. Il messaggio che voi state passando, non bisogna passare nessun messaggio. Quello che ha detto la dottoressa è fondamentale, perché ma la dottoressa lascia perdere. La dottoressa non è che ha parlato dal punto di vista medico dei problemi che uno ha in questo caso, che uno potrebbe avere. La dottoressa dice che siccome succedono queste cose, i gay non vanno bene, perché questo non dice. Non è che non vanno bene, bisogna prepararlo. Dicono che si suicidano più degli altri. Dice che sono praticamente questo io non lo so. Io dico solo che bisogna prepararlo l'anno, perché è una cosa contro natura, perché ma cosa vuoi preparare? Ma perché dobbiamo parlare della preparazione? Perché la valvola, lo sfintere è fatto per portare qualcosa da però dentro. Claudio, fuori, perché ha ragione? Ma questa è una vecchia tesi, perché dai. Perché lo sfintere è fatto per portare qualcosa da dentro a fuori. Sì, non lo da sappiamo, fuori, ma che ne sai? Allora, non è vero, anche questa cosa qui. Ha ragione la dottoressa, perché bisogna prepararlo, bisogna lubrificarlo. Come fanno? Questo lasciamo comunque, a parte tutto, volevo dire. a parte questo, vi voglio dire che la consulta si è spaccata e ha approvato i due referendum. No, è per provare a deviare. Ma non ce ne può fregare di meno. Cioè, questo è un urologo che sta dicendo che la dottoressa ha ragione. Abbiamo archiviato questa cosa, l'abbiamo registrata. Claudio, ti ringrazio. Vuoi aggiungere ancora qualche cosa a questa preziosa informazione che ci hai dato o no? Allora, ci sono tanti giovani gay che vengono deflorati dai Big Bamboo. Vabbè, quello bisogna, che vuol dire adesso. Mi viene il sospetto che tu non sei un urologo, ma sei un coglione. Scusami. Anche a me. Cioè, viene il sospetto. Allora. Molti giovani gay che vengono deflorati da Big Bamboo. Vabbè, d'accordo, ma quello è normale. Hai ragione tu. No, ma vabbè, ma lo sappiamo. E allora il problema ma è, scusa, che c'entra l'incontinenza? Che c'entra l'incontinenza? Spiegami. Perché gli sfondi lo spintere. Vabbè, ma ho capito, ma dipende anche, no? Ma non è che tutti i gay, tutti gli omosessuali sono incontinenti, che dai. Schifo, ma stai dando un messaggio giusto, perché ma non è che tutti i gay sono incontinenti, non è vero, ne conosco un sacco che non sono incontinenti, dai. Esatto, dipende. Ma dipende da tante cose, dai. Anche quelli che non sono gay e non fanno sesso anale possono essere incontinenti. Conosco un sacco di gente che è casta, è pura, eppure è incontinente. Che ti devo dire? Allora, ci sono tre fattori. Dipende dalla frequenza, dalla grandezza. Vabbè. Allora, sappiamo, stai dicendo delle cose. Sei un urologo finto! Sei un urologo finto! Mandami il tuo curriculum via mail. La Zanzara, radio24.it. Claudio Damiani, voglio il tuo curriculum. Grazie. Daniele da Roma, vai. Daniele. Daniele. Sì, eccomi qua. Dimmi, Daniele, dimmi. Vediamo con cosa chiudiamo dopo il dottore. Riaprire il discorso sul fatto degli immigrati. Cosa vuoi dire degli immigrati, Daniele, in conclusione di questa serata? Semplicissimo. Se è gente che ha bisogno di aiuto, l'aiutiamo. Sì. Gente dice che vabbè, questo lo sappiamo, se già aiuto di che tipo? Quelli che scappano dalla guerra li aiutiamo. Poi se scappano dalla guerra li aiutiamo, ma la maggior parte di quelli che vediamo stanno meglio di me di te fisicamente. Sono tutti uomini. Poi? Certo, se tu c'hai la guerra a casa e c'hai la guerra, non scappi da solo giovanotto e felice, o muori difendendo la tua famiglia o scappi con tutti quanti, qui sono uomini. E poi ti dirò anche un'altra cosa che è simpatica, tu hai visto questi ragazzetti, noi gli diamo da dormire e da mangiare, d'accordo, tutto il giorno non fanno nulla, va bene, stanno davanti al supermercato e dunque perché prima ti chiedevano se gli davi un euro però ti aiutavano, questi che sono arrivati ultimamente aspettano che tu arrivi col carrello alla richiesta. Soluzione? La soluzione è che devono fare come si fa i ragazzi alla pari. Io ti faccio stare, ti tratto bene, ma tu 4 ore al giorno ti fai un bel lavoro. Adesso non è che si può imporre alla persona, non è che uno può fare i lavori forzati, cioè, non è che puoi imporre a qualcuno di lavorare. Questo nessuno può imporre a nessuno. A te ti piacerebbe se ti imponessero di lavorare con i lavori forzati? Se non vuoi lavorare, non ti piacerebbe. Perché devi applicare questa cosa agli altri? Dai, su, a domani. La Zanzara è cultura. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.